Roberto Di Varese, cambia, metti sulla zanzara, vai là, veloce anche, vai sulla zanzara, tu devi ascoltare quei programmi lì, non ascoltarmi, te lo ordino, è un mio diritto, ho il diritto di non essere ascoltato da gente come te, ho il pieno diritto, vai sulla zanzara, vai! La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Una bicicletta nuova ti ho comprato, però tu sei caduto dal sellino ed hai il naso tutto blu. Siamo andati dal dottore, ha detto guarirà, basta fare una puntura e tutto passerà. Mio, che colonna, sento le vibrazioni romane, avevano già inventato tutto, il geotermico, le saune, il raffrescamento, l'aria condizionata, mer vivevano le, tutto pubblico, il tutto, e questo è il luogo della sacralità del pubblico, le terme, tutto aperto, gente povera, schiavi, ricchi, facevano le saune, si svagavano, e tutto l'acqua gestita da chiunque, usata da chiunque, non facevano appalti per le saune, appalti per bere e appalti per mangiare. Caro Parenza, abbiamo capito ieri da Grillo in visita a Pompei che il mondo ideale è quello dei romani, capito? Ai tempi dei romani lo facevano. Ma lo facevano, hanno costruito le terme di Caracalla. Ma chi è Caracalla? Abbiamo già parlato ieri dell'incontro con una prostituta per strada, gli ha detto vai su YouPorn, ma in realtà in questo caso non c'entra nulla perché su YouPorn... Ma tu su questo non dici niente, cioè mi lasci da solo nella battaglia solitaria contro il Grillo. Ma su che cosa, scusa, su Roma o sulle prostitute? Non ho capito. Su queste due puttanate che sulle prostitute e sulla costruzione dei romani, su come costruivano i romani, tu non dici niente. Ma che niente. Devo dire, ma è uno straordinario comico, un comico meraviglioso, cioè da questo punto di vista è... Ma vuole governare. È comicità allo stato puro, vabbè al governo farà altre cose, mica bisogna essere per forza comici al governo, anche Renzi fa le battute, eppure governa. Sì, ma quello fa solo battute però. Vabbè, perché ancora non ha governato, vuole il 51%, vedremo. Comunque, il signor Grillo dice anche che il porno in rete toglie le prostitute dalle strade. Questa è una cosa che aveva già detto l'anno... No, l'aveva già detto un anno fa. Ma ha consigliato a quella prostituta, Elisa, che noi stiamo ancora cercando, di andare su YouPorn. Ma in realtà su YouPorn non succede nulla. Perché su YouPorn si vedono i filmati al massimo per farsi qualche pugnetta. Cioè non è che serve YouPorn a trovare una prostituta, giusto? Beh, mi sembra, io che l'ho frequentato in passato, mi sembra di sì. Ma perché oggi non lo frequenti quello. Più, non ho capito. Perché no, non vai più su YouPorn. Cioè qua se uno ha una fidanzata, una moglie, eccetera, eccetera, non va più su YouPorn. No, può andarci in generale, non c'è una regola. Però tu non lo frequenti, va, perché ti fa schifo, cioè siccome sei una persona a modo, sei diventato una persona a modo. Ma non è che ti fa schifo, è che a 37 anni non ci vado più, però ma perché uno a 37 anni non può andare su YouPorn? Ma non lo so, certo, io non ci vado, ma tu. Cioè a 47 tu a 37 anni ancora. Non vai su YouPorn. Vabbè, hai deciso. No, ma io ogni tanto una visitina, una cosa, che ne so, così. Momento di noia. In un momento di noia. Per aggiornarsi, tu dici, come corso di aggiornamento. No, non ne ho bisogno. Comunque. Non ne ho bisogno. Comunque, Grillo. È fissato con questo porno in rete, per cui per questo ha detto la prostituta: vai su YouPorn che non c'entra niente. Ormai è tutto così, turismo, guardate cosa c'è in rete, il porno, c'è il porno, ed è bellissimo, e non fate finta di non saperlo voi pensionati, perché siete tutte le notti, siete collegati, ebbene, il porno in rete togli mignotte dalle strade, togli maniaci, togli violenza, ognuno lo fa da casa sua, si dà un appuntamento con un'altra e sono affari suoi, la rete è democratica. Porno, guardate il porno, ma state scherzando? Il porno togli puttane dalle strade, ti fai i cazzi tuoi in casa, tu clicchi, guardi, fai tutto da solo. La cosa che mi sembra incredibile, al di là di queste stronzate, diciamo la verità, è che i grillini, lo ripeterò sempre, vogliono ancora il Senato. Cioè, ripeto ancora una volta, Grillo è nato per scardinare le istituzioni, per scardinarle, aprirle come scatole di sardine. E invece vuole il Senato, vuole, perché dice che dà più garanzie. Ma quali garanzie? Adesso, la riforma di Renzi è una porcheria inaudita, Perché è vero che elimina il bicameralismo, forse, se verrà approvato il passaggio delle leggi, però rende tutto di una complicazione, con conflitti che si apriranno pazzeschi. Bisognava solo chiudere la serranda e basta. In ogni caso, Grillo ha una posizione assurda, che è quella che secondo lui il Senato serve. Ma se ci metti al posto dei senatori, ci metti dei sindaci. I sindaci, la maggior parte, sono del PD o del PDL. Cioè, diventiamo di nuovo con un senato di nominati. Il senato va sfoltito, va diminuito, come i deputati, che sono 1000. Vanno diminuiti le indennità, i soldi. Ma ci vuole anche, secondo me, una parte di senato, serve, c'è in tutto il mondo la bicamerale, di controllo, con una fase di controllo. Punturina pure a Brunetta questa mattina da Minoli, in cui ha detto: tremate, Berlusconi sta tornando. Intanto si è fatto male al ginocchio, per cui tremate, bisogna vedere, insomma, se si riprenderà dal ginocchio. Noi glielo auguriamo, ovviamente, no? Berlusconi dà il meglio di sé quando è in difficoltà. E quindi tremate, soprattutto i nemici della democrazia, giustizialisti e furbacchioni e furbastri, tremate. Basta fare una. Com'era la cosa? Tremate, com'è? Tremate, le streghe sono tornate. Mi ricordo le femministe che lo cantavano quando dicevano anche: l'utero è mio e lo gestisco io, negli anni 70. Oh, che cosa ha Berlusconi? Una meniscopatia, suggerisce Ronzulli, una meniscopatia europarlamentare. Gli europarlamentari, ci sono alcuni parlamentari molto vicini a Berlusconi che riescono anche a sapere del ginocchio esattamente come sta. Meniscopatia, quindi è un problema al menisco, al ginocchio, problema che peraltro lui aveva già avuto in passato. Ma abbiamo con noi, caro David, uno dei protagonisti di questi giorni brutti, di questi giorni in cui delle procure della Repubblica fanno delle retate, indagano delle persone. Beh, retate. Hanno arrestato 25 persone, 24, che non sono retate quelle. Retate. Sennò hanno fatto una grande retata di indipendentisti veneti, i quali hanno progettato di costruire un carro armato. Dalle intercettazioni sembra che volessero addirittura creare un arsenale, fare una sorta di insurrezione, portare questo carro armato a Piazza San Marco, eccetera, eccetera. Io l'ho definita una buffonata e sono sicuro che finirà in burletta. Basta fare una congiura. Poi ognuno sull'indipendenza del Veneto ha le sue idee, Beh, certo. Abbiamo con noi uno dei più arrabbiati, indagato anche lui, fu nostro ospite qualche mese fa, Sergio Bortotto. Buonasera. Buonasera. Come andiamo? Presidente Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto, con tanto di tessera e tutto. Lei è anche presidente del governo, che cos'è? Veneto provvisorio. Istituito ai sensi dell'articolo 96.3 del primo protocollo di Ginevra del 77. Sì. E questo proprio perché siamo in una condizione di belligeranza, purtroppo. Belligeranza in che senso, scusi? Non da parte nostra, ovviamente, perché gli atti che fanno sono atti di aggressione e di guerra contemplati dal protocollo di Ginevra contro il popolo veneto. Guerra. Con questi atti scomposti, ovviamente, vigli e vigliacchi. Sì, scusi, Bortotto, ma secondo lei l'Italia è in guerra? No, non è l'Italia che è in guerra. Cioè, voi vi sentite in guerra con l'Italia? Politica. Sì, sicuramente, ma è una questione giuridica, una condizione giuridica in cui ci mettono e ci vogliono portare, quindi vai che noi contestiamo subito, anche perché il movimento non ha mai scelto di intraprendere la cosiddetta guerra di liberazione, ma la via diplomatica, costituendo per l'appunto il governo veneto provvisorio. Ma chi lo riconosce questo governo veneto provvisorio? Beh, guarda, adesso comincia, i contatti internazionali ci sono, comincia a esserci qualche riscontro, perché da parte di chi, scusi? Nazioni, beh, guardi, riscontri anche documentali da parte della Federazione Russa comincia a essere. Ma la Federazione Russa non ha riconosciuto nessun governo veneto, Bortotto? No, infatti non ha riconosciuto il governo veneto, ne abbiamo parlato di questo ancora, abbiamo parlato di riscontri ai nostri appelli. Ma riscontri che sarà qualche funzionario che ha fatto un cioè qualche funzionario, vabbè, comunque. No, non è proprio così. Scusi, ma quelli in galera, mettiamo quello che è una cosa dopo quello che c'è realmente. Scusi, Bortotto, però io dico una cosa, lei è indagato per che cosa? Non lo so, io devo capirlo ancora, perché banda armata, che cos'è? Sì, terrorismo, credo addirittura. Terrorismo. Ma lei si sente un terrorista? Ma neanche per idea, non sarei capace di far male una mosca, quindi è impossibile. Sì, però lei dice che ci vuole una guerra di liberazione nei confronti dell'Italia. No, ho detto che il Movimento di Liberazione Nazionale è previsto per legge la cosiddetta guerra di liberazione, no? Ma noi non abbiamo scelto questo percorso, ma quello del governo. Ma se l'Italia insiste con queste inchieste, l'Italia... L'Italia sta insistendo, il nostro percorso è sempre questo, non lo posso mica dire io, è il popolo che ormai è stanco, capisce? Ma di sicuro noi non possiamo intraprendere questa strada, ma certo che mettere dentro delle casalinghe delle persone perché hanno si sono incontrati, hanno progettato, hanno fatto queste cose, perché vogliono l'indipendenza del Veneto, cioè questo è paradossale. Ma secondo le indagini, secondo i PM, c'era una specie di cospirazione che si stava preparando. Sì. Guardi, mi viene da ridere, perché lo dico sinceramente, perché anche sulla ma lei li considera prigionieri la polizia, si ricorda l'inchiesta sulla polizia veneta del 2009 che si sta trascinando dal 2009 con due super inchieste, spesi milioni di euro, probabilmente spesi per intercettazioni quando noi abbiamo le porte aperte, vengono qua. Però Bortotto, scusi un attimo, lei considera quelli che sono stati arrestati dei prigionieri di guerra? Prigionieri di guerra, neanche politici, per noi sono prigionieri di guerra. Prigionieri di guerra. Di guerra intendo sempre sotto profilo giuridico, a noi ci interessa. Anche io, quando uno dice prigionieri di guerra, sono prigionieri di guerra. C'è poco prigionieri di guerra, tant'è che dovrebbe intervenire la Croce Rossa internazionale, perché qua la condizione è cambiata, non cioè, siamo in che più senso? In uno stato, non c'è legalità. L'Italia qua è uno stato occupante, straniero occupante. Ma da quando occupante? È colonialista da quando ci ha occupato, praticamente. Sì. Ma lei, scusi, ce l'ha il passaporto italiano o no? No, mai avuto e non lo avrò mai. E come esce dall'Italia? Neanche se ho lavorato in questura per 22 anni non ho mai avuto il passaporto come italiano. Come fa a uscire dall'Italia a recarsi in un paese io dove c'è? Guardi, come ho già fatto in altre volte, esco con i documenti del Movimento di Liberazione Nazionale. Marco, se lei va in America... Anche al governo, io... Bortotto, se lei va in America con sta roba qui, non la fanno passare... Io per andare in un altro stato devo avere il permesso di quello stato, di sicuro non lo chiedo all'Italia. No, però scusi, se lei prova ad andare... Se mi ospita... E io sa quello stato che io vado con i miei documenti. Ma i suoi documenti no, la gente si mette a ridere alla cosa, alla frontiera. Eppure siamo entrati anche alla sede del governo. Dove? Il governo sloveno, a quello austriaco. Beh, in Slovenia ci vuole la carta d'identità, magari. Sì, come no. Guardi, non ho neanche quella, io neanche quella italiana, quindi. Ho capito, ma come fa a superare i confini, scusi, Bortotto? Vado col mio documento. Col documento, del Movimento di Liberazione Nazionale. Vabbè, ma siamo alla follia, su, dai, Parenzo. Sì, come no, perché siamo la follia. Avere il documento italiano, scusi, ma chi è che mi impone? Cerchi di capire, mi impone una cittadinanza che non è mia. Poi non torniamo su questi discorsi, nessuno mi può imporre una cittadinanza che non è mia. Scusi, per lei napolitano chi è? A chi se ne frega del napolitano? Napolitano è un presidente straniero italiano. Straniero. Non è certo il mio presidente. Cioè un presidente straniero. Sì, lei che lingua sta parlando in questo momento, Bortotto? Guardi, se lei sapesse veramente da dove trae origine l'italiano, forse si renderebbe conto. No, ma lei adesso sta... Lei è adesso... dal Petrarca, capisce? Sì. È il Petrarca, sicuramente l'ha fatto qua, non è certo di origine... Però lei sta parlando italiano, cioè esiste... Lei no, io sto parlando una lingua che è di origine veneta, si informi. Guardi, la cosa strana è proprio Bertotto, questa, scusi. Si informi. Parenzo, io non sono uno storico, voglio sapere, Bertotto. Mi è stato anche riferito questo. Un attimo solo, Bertotto, fermi tutti, calma. Allora, ripeto, nonostante quello che dice Bortotto, continuo a considerare questa inchiesta una follia, soprattutto per quello che dice Bortotto. La zanzara che punge nel vivo, ripiena di sangue come vampiro. Ne stai trattando, ne gavi trattando gli ultimi 17 anni come gli ebrei nei campi di concentramento. Ma un allevatore morto suicida picca in sala di mugitura, se è evidente che l'è uguale e qui fioi di puttane lì la paga la cara. Siamo qui, la Zanzara, caro Parenzo. Abbiamo sentito un signore indipendentista che dice: siamo trattati come gli ebrei durante il nazismo. Voglio capire, prima di darti la parola, se Bortotto la pensa allo stesso modo. Io se la penso allo stesso modo, sì, peggio direi. E cioè, direi siete che trattati, sarà il momento, siete trattati ai peggio? Nostri persecutori daremo la caccia come fanno gli israeliani oggi ancora con i nazisti. Questo è poco ma sicuro, l'abbiamo promesso. Cioè, non ho capito, i vostri... sono dei criminali. Il rosso, invece di venire da noi a arrestare casalinghe e altri patrioti, perché non sono andati a arrestarsi l'ex procuratore capo Foiadelli, l'ex questore Carmine Damiano, con la farsa dell'inchiesta sulla Polizia Nazionale Veneta, che si sono inventati tutti, hanno messo le armi, hanno fatto quella sceneggiata? Come mai queste cose non vengono mai fuori? Perché non vengono mai chiuse queste inchieste, sì, fatte in un certo modo, capisce? Però, scusi, allora vediamo dove sta la legalità e la giustizia. Scusi Bortotto, che significa che quando sarà il momento darete la caccia a questi? Quando sarà il momento il popolo veneto e le sue istituzioni daranno la caccia a questi criminali, per noi sono dei criminali, dei criminali. Li assicureremo alla giustizia veneta. Okay? In ogni luogo, in ogni tempo. Però scusi un attimo, lei però si sente perseguitato peggio degli ebrei durante il nazismo? Beh, io guardi, questo c'è gente che è morta, quindi non scherziamo. No, è lei che l'ha detto prima, cioè amico, ho detto io. No, non l'ho detto io, ho detto che lui ha detto peggio, morta, peggio ha detto, peggio. Peggio, certo, perché questo è peggio. Ho capito, è peggio. Perché è peggio. Lo fanno con una sottigliezza, ok, sì. Un'arguzia che è più ancora prima. Là era uno stato di guerra, qua è peggio. Okay? Ma il tricolore per lei cos'è? Scusa. Mi faccia il piacere, non mi faccia vomitare, per cortesia. Il tricolore, io rispetto tutte le bandiere, ma la mia bandiera è la bandiera del popolo veneto, non è il tricolore, ma il gonfalone di San Marco. Ho capito, ma quando in Veneto è pieno di tricolori, le mi voglio... faccia il piacere, se è pieno di tricolori perché lo mettono le istituzioni straniere d'occupazione italiane, ok? Poi se c'è qualche veneto che si sente italiano, rispettiamo, non c'è nessun problema. E che fate con questi qua? Una volta conquistato il potere, ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra? Resterà italiano, è il suo diritto rimanersi italiano. Ah, meno male. Meno non male. Abbiamo nessun Scusami. Problema di questo. Cioè, state montando una cosa che non esiste. Io sto montando, l'hanno montata la procura, no, l'ha montata. Stiamo, quando lo dico state montando, mi riferisco alle autorità d'occupazione. E la Lega non sale sul vostro carro, la Lega adesso? Quale carro? Scusi, no, voglio dire sugli indipendentisti adesso. No, io capisco che dovete sempre far sceneggiata, però no, state Lega... molto attenti come dite le cose. Qua la Lega è un partito politico italiano, no? Adesso sta cavalcando probabilmente questo di nuovo dicevo. La questione indipendentista, ma certo, perché ci sono elezioni o altre cose. Noi comunque siamo sempre contro i caregari, glielo dico. Contro i caregari, i poltronai di turno, la gente che va in cerca di caregari, un modo di cioè, dire. Cioè Salvini, no. Per lei chi è Salvini? Salvini della Lega. Non è il presidente della Lega. Ma per lei chi è? No. Che personaggio politico è? Ma che ne so, ma chi si interessa? Ma non mi interessa a me della politica italiana. Io sono veneto, a me interessa la libertà del popolo veneto. Non mi interessa niente né di Lega, né di Zaia, né di quanti anni. Non mi interessa. Scusa. Se Zaia facesse un'azione e dice sì, si dichiara Veneto, sì, si mette aspetta. Da presidente della regione Veneto, che è un ente straniero italiano e non pure. Rappresenta... Sì, certo, non rappresenta il popolo veneto, non rappresenta sì. Neanche geograficamente la realtà territoriale della Repubblica. Ma lei si sente un prigioniero a casa, si sente prigioniero a casa sua, questa è la sostanza. No, io mi sento ogni giorno di più sempre più libero. Guardi, sempre più libero. Parenzo, che ogni vuol dire? Ogni giorno sì. Di più sempre no, più libero sapere... perché le istituzioni straniere italiane cominciano ad avere paura del popolo ma veneto. Ma non mi pare. Volevo, e fanno bene. No, sapere, guardi. Le vedremo, secondo me ne vedremo sempre di ma lei è disposto a morire? Sarebbe disposto a morire per il Veneto? Come sempre, già detto e ribadito, sempre pronto a morire per la patria. A morire come? E la mia patria è la Repubblica Veneta e non è l'Italia. Ma si come? Morire come? A morire, lei come muore, scusi? Ma no, ma morire come? Con un'azione armata? Io con... non mi... Ma mi faccia immolandosi, piacere, bruciandosi come Jan Palach a Praga, come bruciandosi in piazza? Questo Bortotto dovrebbe fare come? Faccia lei col suo tricolore, allora si brucia. Ma come nella Cecoslovacchia sotto il comunismo dovrebbe bruciarsi in piazza? Lo faccia lei, no, si bruci lei in piazza. Ma no, ma se uno. Noi abbiamo già avuto purtroppo tanti morti qua, d'accordo? Quindi insisto e ritorno. Ma è lei che dice che vuole. Si vuole morire per il Veneto. No, è lei che me lo chiede. Beh, lei ha detto di sì, io però. Io sono pronto a morire per la mia patria. Ho capito, appunto. Se questo le fa ridere. Ma non mi fa ridere. Pensi a quanti sono già morti. Ci pensi e ci rifletti. Parenzo, che vuoi dire? No, che voglio solo capire. Italiana. Voglio capire questo. Stato mafioso che ci occupa. Il primo mafioso chi è? Bortotto. Ma chi sono? ne frega, guarda, il primo, mafiosi sono tutti uguali, non c'è né primo tutti. Né ultimo. Cioè, Napolitano è un mafioso? Mafiosi. Napolitano. Guarda, non mi interessa. Ma cosa vuoi che ti dica se Napolitano è un mafioso? Me lo sta chiedendo lei. Domanda. A me di Napolitano non me ne frega proprio niente, lo vuole capire che è uno stato italiano. Beh, della politica italiana ho capito, non mi però, interessa. Se non il semplice fatto che è qua e che occupa. Ma se la lei mia vuole patria, combattere l'Italia, in qualche modo dovrà sapere che cosa, chi è, chi non è quello, cosa fa, cosa non fa. Combattere l'Italia con le armi della legalità. Vabbè, quello l'ho capito. Quello l'ho capito. Parenzo, che vuoi dire a Bertotto? No, dico che è premesso che non ci vuole un'inchiesta giudiziaria, ma in quale comune risiede Bertotto? Scusami, solo questo, un attimo. Quale comune risiede? In quale città del Veneto? Sa cos'è la sovranità personale lei? No, ma dove risiede? Ma in quale comune? È una domanda, Bertotto. Allora vada a leggersi sul sito www.mlnv.org si legga la dichiarazione di sovranità, dopo vedrà. No, a me nessuno mi può imporre niente dove risiede. Io ho già chiesto di essere tolto dalle liste anagrafiche del comune di Villorba. Non è quello, Villorba. Perché non riconosco le autorità d'occupazione italiane, d'accordo? Il comune di Villorba. Quindi non è un problema, io sono una persona libera, un cittadino libero e sono di nazionalità veneta. Aspetta. Non sono italiano. No, sta ma questo l'ho capito. Parenzo sta chiedendo. No, io dico Villorba, il comune di Villorba. Sì. Il sindaco di Villorba dovrebbe fare immediatamente, perché è nella sua disponibilità, diciamo, di sindaco, una cosa che di tre lettere, TSO, che vuol dire trattamento sanitario obbligatorio. Vabbè, per te è matto, Bertotto. Abbiamo capito. Guardi, posso dire una cosa? Vada a vedersi bene il sito. Già quando ero in polizia hanno tentato di farmi un TSO. E questo semplicemente perché avevo arrestato dei superiori, li avevo denunciati per peculato e contrabbando, perché la droga si riciclava, capisci? Avevo il coraggio di denunciare. Ma col carro armato? Andate a vedere bene queste cose qua. Bertotto. Dopo, siccome uno Stato mafioso e criminale non si riesce a combattere, non si può combattere, bisogna fare le cose seriamente. E allora l'unica cosa è liberarci di questa oppressione. Ma Bertotto, scusi un attimo. Ma col carro armato che volevano fare quelli là secondo lei? Ma quale carro armato? Vabbè, quella specie di carri armati. Quella specie avete di carri armati. Io non ho visto carri armati. Quel prototipo, diciamo, quel prototipo. E con la ruspa vuole dire? Con che la ruspa? Che facevano? Ma scusi, io non posso sulla mia macchina attaccarci sopra delle lamiere a fianco. Mi faccia capire. Beh, io diciamo che non posso. Non diciamo cazzate, perché la polizia è venuta da noi a prelevarci i volantini, le magliette, i tagliaunghie, d'accordo? Vabbè, quelle sono minchiate. Siamo rinviati a giudizio a giugno per loro. Io dovrei andare a rispondere a un giudice italiano, no? Che è un imbecille che mi viene a chiedere se faccio la guerra di liberazione con coltellino a Saramanico. La richiamo. Fuori con le carte, che ci vuole? Il TSO che lo facciano a loro. È ancora in casa. Spazio sotto il salice, non stare lì così comoda, sull'erba vento spesso di signori. Pronto? Sì, buonasera. Pronto? Buonasera, mi ascolta? Sì. Salve, buonasera. Senta, io stavo cercando Elisa. Chi? Elisa, mi ha lasciato questo numero di telefono, la... Come posso dire, la prostituta, quella che. Scusi. Chi era? Scusi? Cascone? Pompei? Cascone? Pompei? Parenzo, alla ricerca furibonda di Elisa, la prostituta che ha parlato. Questo era Agip Cascone Petroli Pompei. Dove ogni tanto. Cascone Petroli di Pompei. Aspetta che ci riproviamo. Parla tu questa volta, parla tu. Sì. Pronto? Sì, sono Gaetano, ciao. Elisa, grazie. Senti, Gaetano, se non la smettete di chiamare, vi denuncio. Va bene? Gaetano. Ma io volevo solo sapere di Elisa. Ma tu hai capito? Vi denuncio. Ma io sono Gaetano. Sul telefono qua ti denuncio. Ma sono Gaetano. Più. Cos'è che denunci che sono Gaetano? Ma che sei Gaetano? Che cazzo sei? Sono Gaetano. Beh, senti, però non capisco perché ti comporti così con me. Sono Gaetano, ti ricordi? Ma chi Gaetano? Ma quale Gaetano? Ma tu secondo me hai mediato fisco per fiasco? No, sono Gaetano, fratello di Torino, e mi ha detto di Elite. Sono il fratello di... Ma ti ricordi che ci ha visti l'altra volta? Di... Che... Oddio mio, Gaetano, fratello di Tonino e il cognato di Pasquale. Zenone da Cipro. Senti, tu mi hai rotto, il fratello di Tonino e il cognato di Pasquale. Allora, non chiamare più perché comunque... C'è Ma perché mi fai così? Non chiamare più, va bene? Ma sono Gaetano di Pasquale, scusami, ma perché? Ma chi ti conosce Gaetano di Pasquale? No, ma fermati un attimo. No, scusami un attimo, sto cercando Elisa. Io sono Gaetano e Pasquale è mio cognato. Senti, allora, io non conosco né Pasquale, né Gaetano, né Elisa, né tuo cognato, tuo zio e così. Perciò non chiamare più. Però posso dirti che veramente sei cattivo. Non devi chiamare più. Però sei cattivo, è anche ingiusto, sì, perché sono Pasquale. Cattivo, non chiamare più. E non mi rompere il cazzo, va bene? Ma io sono. E a Pasquale cosa dico adesso? A Pasquale. Io non lo so perché non ci vuole passare questa Elisa. Eppure questa Elisa lavora in quella zona lì. Ha lasciato anche quello come recapito. C'è una stazione Agip di Pompei. Vabbè, ma chi era tutta sta gente? Cioè va a prendere le sigarette là la prostituta che ha parlato con Grillo. Comunque hai visto com'è scortese questo signore? Ma no, aveva una acrimonia nei confronti anche di Pasquale, di Gaetano, di tutta questa gente. Persone rispettabilissime perché... peraltro. Non capisco perché aveva questa acrimonia. Vabbè, titoli del TG3, dai. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Renzi e il Quirinale per riferire sul documento di economia e finanza che sarà presentato martedì. Dal governo via libera la soppressione di 4 ambasciate. Le riforme non sono più rinviabili, dice il ministro Maria Elena Boschi. I dubbi sono legittimi, ma i professori le bloccano da 30 anni. Grillo ribadisce no al dialogo su queste riforme e attacca Renzi. Dovrebbe andare al 41 bis per menzogna pubblica aggravata. La replica è spiazzato per questo insulta. 1.000 miliardi per rilanciare l'economia, faraonico piano allo studio della Banca Centrale Europea, rivela un quotidiano tedesco. Spread in picchiata. Diffuso in rete il video di un'intervista di Francesco agli studenti belgi. Questo papa è un comunista? No, la povertà senza ideologia è la bandiera del Vangelo. Per controllare il passato di chi lavora con bambini, da lunedì scatta l'obbligo del certificato antipedofilia, le perplessità degli interessati. Uccisa oggi in Afghanistan la fotografa tedesca autrice dell'immagine icona della strage di Nassiriya, ferita insieme a lei un'altra collega della Associated Press. Domani le presidenziali afghane. Vai Parenzo! L'Italia, l'Italia se destra, se destra, se cinta la testa, dove la vittoria. Siamo sempre con Sergio Bortotto, presidente del Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto, ingiustamente secondo me accusato di sedizione contro lo Stato, terrorismo eccetera eccetera, indagato in questa inchiesta. Sentire l'inno italiano, Bortotto, che impressione le fa? Non mi interessa, io ho un altro inno che è un altro che è la Giudizia Triunfa, che è questo, e ascoltatelo bene perché questo è l'inno della nazione veneta. Qual è? Qual è? Bortotto, qual è? Ed è fatto da Vivaldi, visto che mi ha messo l'inno straniero italiano di uno stato che occupa la nazione veneta. Questo è il mio inno nazionale, se lo ricordi. Qual è? Come si chiama? Vivaldi? Che cos'è? Questo ha attaccato l'inno dei Vivaldi. È la Giuditta Triunfa di Vivaldi. Bah. Per ricordare la vittoria di Lepanto, dove i veneti hanno combattuto no. per mantenere la libertà dell'Europa, se lo ricordi. Lepanto no. Però io dico, l'esercito ce l'avete o no? Sì. Guarda, posso dire l'esercito, guardi, a me mi hanno sequestrato i disegni degli elicotteri che aveva fatto il figlio del dottor Paolo Gallina, no? Gallina, okay? Sì, signor Paolo Gallina. Vicepresidente chi è? Del movimento, chi è? Figlio di 8 anni, ha fatto i disegni degli elicotteri della Polizia Nazionale Veneta, sono oggetto dell'inchiesta della Ho capito, ma in futuro un esercito ce l'avrete o no? In futuro? Ah, non lo so, forse no, non lo so, deciderà il popolo veneto, le nuove istituzioni. Signor Paolo Gallina, signor Paolo Gallina, che ruolo ha nel governo provvisorio? È vicepresidente del Movimento di Liberazione Nazionale, dottor Paolo Gallina. Signor Paolo Gallina. Tutti presidenti. Però in questa ha ragione Parenzo, che sembrano tutti presidenti. Ci sono quattro. Sì, ma infatti è un problema, questo è vero, ma non c'entra niente. Sì, il problema sanitario. A volte ce ne sono tanti in tutte le nazioni che si vogliono liberare. Bortotto, comunque lei se ne deve fare una ragione. Lei si trova sul suolo italiano, Bortotto. Lei si trova sul suolo italiano. Se lei è in grado di dimostrarmi che l'Italia è qua legalmente sul nostro territorio, ok? Allora sono disposto a diventare italiano. Ma come legalmente? Ma siccome nessuno fino adesso, ma come nessuno? Okay, nessun giudice, nessun magistrato, nessun italiano, nessun funzionario, tantomeno il signor Napolitano, no? Come tanto mi dimostra, è in grado di dimostrarmi che qua sui territori della Repubblica Veneta l'Italia è presente legalmente. Scusi, ma quando Napolitano viene in Veneto, viene non è che... perché è circondato da sgherri armati, se lo ricordi? È circondato, pronto, mi sente? Sì, sì. È circondato da poliziotti, che siamo matti. Quando fanno queste operazioni, vanno in casa dalle persone dei veneti, vanno armati, se lo ricordi? Vabbè, quello sì, perché la polizia va armata. La polizia veneta andrà armata, no la loro. Qua devono alzare i tacchi e andare tutti fuori. C'era un termine, si diceva, per essere educati dai copiedi. Cioè dai coglioni, dice lei. Però Bortotto, scusi, quando Napolitano viene negli uffici pubblici ancora ci sta l'effigie di Napolitano, no? L'effigie, l'immagine. Sì, e allora? No, vabbè, significherà qualcosa. Uffici questa... pubblici italiani. Ma chi se ne frega? Qua nel mio ufficio sicuramente non c'è l'effigie di Napolitano, non c'è la bandiera tricolore, ma c'è il gonfalone di San Marco. Gonfalone, sì. E questo è più che sufficiente. Mi onora e avanti. Ma i suoi figli a scuola dove vanno? Non vanno in una scuola italiana se ha figli? Per carità. Dove vanno? Non diciamo altre stronzate. Dove vanno? Perché la scuola italiana è proprio l'ultima a cui si deve fare riferimento. E dove vanno non i suoi diciamo figli? Fesserie, non Quanti diciamo figli ha lei? Guardi, lasci perdere. No, lasci ma come perdere. Lasci perdere? È una domanda legittima. D'accordo. Mia figlia va in una scuola pubblica italiana. Ecco, vabbè, questo punto. D'accordo. Lei quanti figli ha? Io non ho figli. Ma non è vero, non è vero. Vabbè, se lo dice lei che non è vero, ma non sono neanche. Cioè, secondo lei, i figli di un veneto, dove devono andare a scuola i figli di un veneto? Purtroppo vanno a scuola in istituzioni italiane adesso, ok? In cui vogliono obbligare anche a cantare l'inno nazionale italiano all'inizio, ma cosa quello. Abominevole perché non è il nostro inno, d'accordo? E siccome dicono che per rispetto addirittura degli stranieri qua, per rispetto delle loro culture diverse, non vogliono che si canti l'inno nazionale, si figuri, non si preoccupano di questo, non si preoccupano dei veneti che sono. Comunque per i patrioti, lei che cosa vuole fare per i patrioti veneti in carcere? Vanno liberati i patrioti subito, ma attenzione, noi non lo chiediamo all'Italia. A chi, scusi? Gli intimiamo e gli ordiniamo di liberarli subito. Ma chi lo chiede? Perché sono trattenuti illegalmente. Ma chi lo chiede? Bortotto, a chi lo chiede? Non lo chiediamo. Ma come non lo chiedete? Non lo chiediamo. Gli intimiamo e ordiniamo di liberarli subito. Ma il popolo veneto lo chiede. Parenzo, dimmi. No, io vorrei intanto questo. Vorrei Bortotto stasera cancella tutto quello che c'era in palinsesto, tutto. Sì. E vorrei che la radio, è un appello che faccio a Napoletano, che è il direttore del Sole 24. Lei conosce il direttore del Sole 24, il signor Napoletano? No, non lo conosco. Non lo conosco. Vabbè, siamo illegali pure noi. Un appello. No, non lo conosco, cosa vuoi dire? Lo conosco. No, per carità, deve stare in diretta. La notte, tutto fino alla fine della zanzara, sicuro. Perché secondo voi mico tempo puoi stare in diretta con voi altri? Ma dai, che non c'è un cazzo da fare. Ma non scherzate, non scherziamo. Un attimo solo, cose gravissime. Ti devo fermare un attimo, Bortotto. Bisogna liberarli con la forza, questi qua o no, dal carcere, questi patrioti veneti. Cazzo. Tempi duri, non tanto per noi, non ce ne frega niente, nulla, zero. Eccoci qui, la Zanzara, popolo della radio, 800 24 00 24, caro Parenzo, che c'è da dire sulle cose di oggi. Ripeschiamo un po' tra il peggio della settimana, mentre fra poco torniamo con Bortotto. Ma dov'è Bortotto? Su un attimo solo, fammi dire alcune cose della settimana. Innanzitutto, la signora Laura. Superato da Bortotto. Sì, lo so, è vero, però fammi dire alcune cose. La signora Laura Puppato, per esempio, no? Laura Puppato, senatrice del Partito Democratico, la quale dice, che le riforme del Partito Democratico elimineranno la presenza fisica dei militanti leghisti sul territorio, la signora Puppato. Le soluzioni che noi proponiamo e che la Lega Nord ha il timore enorme che si portino avanti, perché sono le soluzioni che renderebbero nulla qualsiasi presenza fisica di militanti e di rappresentanti politici della Lega Nord. Qual è la soluzione che noi proponiamo? La soluzione è quella di mettere la soluzione, poi andiamo. Ma si rende conto? È quella di realizzare. E c'è anche il candidato sindaco di Bari del Partito Democratico, signor De Caro, se non sbaglio. De Caro. Il quale propone un kit, Antonio De Caro, un kit per coloro che hanno i cani, cioè vuole regalare un kit, la paletta, non so che cosa, per chi ha i cani e dunque per evitare che lascino la cacca per strada. Capito, signor De Caro? Beh, questo può essere utile. Dai, su, regalare, ma se lo comprassero, no? Capita di incontrare anche le cacche dei cani. Durante le campagne elettorali normalmente si regalano dei gadget. Noi non volevamo regalare gadget, anche perché è un periodo particolare per il nostro paese, però abbiamo pensato di regalare il kit dalla paletta con la busta per raccogliere la cacca dei sarebbe cani. Sarebbe un bel incentivo. Lo faremo. Sarebbe un bel incentivo, che lo diceva una giornalista lì locale. Sarebbe un bel incentivo pure. Ma fagli il culo a quello, no? Però è un gadget elettorale. Ma che gadget? Invece alla Camera dei Deputati, ti giuro, parlano della durata. Poi mi viene voglia di dare ragione a Bertotto su alcune cose, non su tutte, però su alcune sì. No, aspetta. Alla Camera dei Deputati in Italia, in quella che Bortotto chiamerebbe Italia, cioè in un paese straniero, parlano, sì, lo so. Ma come straniero? Ma perché gli vai dietro? Non gli sto andando dietro, secondo Bortotto è un paese straniero, sto dicendo. Parlano della durata di quanto, ti giuro, di quanto devono durare, di quanto deve durare il semaforo giallo. Cioè tu sai che al semaforo c'è, no? Il giallo, il verde, il rosso, no? Beh, però questo è importante, perché effettivamente io che sto studiando per la patente ora, sì. Capisco che... Cioè avete capito tutti, sta studiando per la patente, Parenzo, avete capito tutti. Ancora. No, perché avete capito tutti, che sia chiaro al popolo della radio. Voglio guidare il tanco poi, allora per quello sto prendendo la patente. Allora, guidare il tanco è importantissimo, certamente è importante, però uno lo fa nelle autoscuole, eccetera. A me non me ne frega nulla di quanto deve durare il semaforo giallo. Lo decidessero i tecnici, quelli del Ministero dei Trasporti, le singole città. Per quale motivo al mondo questo argomento di un interesse zero città deve arrivare? Scusa, ma perché se ma ne... cosa fai il federalismo del semaforo? Ma perché ne deve arrivare? Ma no, va bene, il Ministero dei Trasporti. Il Ministero dei Trasporti, va bene. Perché ne deve discutere il Parlamento italiano? Perché? Perché? E tu lo sai chi ha proposto questa cosa, questa interrogazione? Signor Baldelli, nostro amico Baldelli. Buon anno. Vicepresidente, no, sorpresa, vicepresidente. Io credo che quello che ha detto, che ha letto il sottosegretario sia insufficiente per avere un quadro chiaro. Non si può dire che i dispositivi funzionano in materia autonoma rispetto al giallo breve e ha una durata indistinta, come si evince dalla risposta che è stata data. Ma tu ti rendi conto o no? Parlano dei semafori gialli. Intervenuto pure il sottosegretario, dai. Zanetti, come si chiama? Zanetti. E risponde pure, capito? Non bisogna rispondere a queste interrogazioni, bisogna dire no, a queste interrogazioni per dignità non rispondo. In relazione alla problematica segnalata dall'onorevole Baldelli, evidenzio che l'articolo 41,10 del decreto legislativo 285 del 92, codice della strada, non indica una durata minima del periodo di accensione della luce gialla veicolare, ma si limita ad affermare un principio di... Questo succede in Parlamento, cari amici. In Parlamento poi dice che uno si incazza, parlano del semaforo giallo. Il semaforo giallo! Bortotto, per lei il Palazzo del Quirinale, lei che è indipendentista, separatista, che cosa rappresenta il Palazzo del Quirinale? guardi, io non sono né indipendentista né separatista, che... io sono un veneto che vuole la propria patria libera dall'occupazione italiana. Vabbè, è una cosa un po' diversa. Ma dove arriva il Veneto? Non abbiamo bisogno di secessione. Dove arriva il Veneto? Per stare precisi. Sì, sempre per essere precisi. Dove arriva il Veneto? Il Veneto dove arriva come confine? Il Veneto non è la regione Veneto, è perché l'espressione regione Veneto è l'espressione di un ente italiano pure. Che non ci riguarda. Cioè, certo. Dove arriva secondo la lei? La Repubblica Veneta è la Repubblica Veneta, dai territori dall'Istria ad Dalmazia, dei territori fino a pure. Bergamo, i territori che c'è. Cioè, bisogna pure riprendere. Lo dice anche chi lo dice? Sposi c'è scritto. Va bene, Promessi Sposi c'è scritto. Sì, Lorenzo Tramino scappa dai Bravotti. Vabbè, ho capito, però è passato un po' di tempo. È passato un po' di tempo, però. Sicuramente è passato. Guardi che non esiste l'uso capione nel diritto. No, però scusi, ma allora bisogna riappropriarsi. Bisogna riappropriarsi. Non si può. Aspetta, aspetta. Non sentiamo, ecco, sentiamo questi esperti del diritto. No, però scusi, Bortotto. Non è questo punto, cerchiamo di capirci. Bisogna riappropriarsi anche dell'Istria, allora? No, è una cosa un po' diversa. È diversa. È una cosa un po' diversa. Questo deciderà comunque il popolo. E i popoli. Ma chi che sono decide? Là, chiaramente. Ma i popoli che sono lì hanno altri pensieri, non questo della Repubblica Veneta. Perfetto, sicuramente li hanno quelli che sono là, se li avranno. Sono altre problematiche che affronteremo a tempo. Ne affrontiamo una, però per ora il nostro problema è l'Italia. È l'Italia. Ok? È l'Italia. È l'Italia. Non è né la Slovenia né la Croazia, ma sicuramente è l'Italia. Le prefetture. Il vero grosso problema, palle al piede, che ha il popolo veneto è l'Italia, perché è uno Stato che ci occupa. Tra l'altro è illegalmente qua, si occupa di uno Stato straniero, è razzista e colonialista. Questo, razzista in che senso? Una delle tre condizioni, è razzista nei confronti del popolo veneto, perché nel momento in cui ci vietano di seguire le nostre tradizioni, la nostra cultura, il razzismo nuovo istituzionale. Ma lei può seguire tutte le tradizioni che vuole? No, questo lo dice lei, questo non è vero. Come no? Questo non è vero perché è vietato, ci vietano di andare in piazza con le bandiere di San Marco, con Ma quando mai? Visto che non le sa le cose, no, ma adesso non le sapete. E Arezzo, questo è il punto, in piazza San Marco a Venezia vengono vietate processioni e manifestazioni con la bandiera di San Marco. Ma al massimo chiamare l'ambulanza. Agli insegnanti in classe che portano la bandiera di San Marco. Scusa. Ma perché dovrebbero portare la bandiera di San Marco? È vietato, perché è vietato dalla direzione. Arezzo, interviene un attimo no, solo, Arezzo. Scusami, poi chiudiamo. Io credo, non si può indagare una persona che dice che i confini del Veneto li ha definiti Manzoni. Non è possibile. No, tecnicamente. Non è possibile che forse parla di farebbe meglio che lo facessero a lei più che a me. Non forse, è possibile. Perché io però... non ho detto questo, è chiaro che volete sempre buttarle. Ma se lei si presenta al confine. Guardate, si presenta in aeroporto, non scherzate sugli abusi. Che sono fatti, non scherzate, ok? Sull'inasprimento. Qua hanno acceso un cerino su un mare di benzina. Ma Renzi, lei ha fiducia in Renzi o no? Non gliene frega niente. Dovete stare molto in campana. Ma in campana in che parlo senso? Delle istituzioni italiane, qua presenti sul territorio. State in campana, cioè, che può state succedere? Molto attenti, perché le cose sono è gravissima, la tensione è alle stelle qua. Ma possiamo continuare a trasmettere la zanzara o no? Chi se ne frega della zanzara? Siete voi che mi state cercando, cosa volete da me? Scusa, Parenzo, chi è che li impedisce di trasmettere? Se Bortotto mi deve mettere a ridere, guardate che se non lo fate voi lo chiamo io, se qualcuno che mi venga a prendere col TSO a questo punto, d'accordo? Vabbè, Parenzo, se Bortotto si presenta alla frontiera con gli Stati Uniti, diciamo in aeroporto, che succede secondo te, Parenzo? Arriva in aeroporto a Venezia, arriva all'aeroporto Marco Polo di Venezia e dice, Valdesca lì al bar, dice, amico, ad andare a New York. E il signore dice sì, benissimo. Perché secondo lei si fa così. Gli dia il documento. Perché io vado dal poliziotto italiano che è lì alla frontiera e vado a dargli. Guarda che ho fatto servizio anche ai polizia frontiera. E che fa allora? Non vado là, ovviamente. No. Dove va? Chiaro, perché non vado là. Io chiederò ovviamente tramite le vie diplomatiche. Si parla prima tramite ambasciata. Le vie diplomatiche. Ma comunque guardi, lasciamo. Lei telefona in ambasciata e dice che è per Totto. Perché allora usiamo il suo metodo. Lei dice, chiama l'ambasciata diplomatica, ma avete tempo da perdere queste cose qua quando noi abbiamo dei patrioti in galera, ok? Perché rivendicano la liberazione della propria patria e lei mi viene a parlare di queste cose qua. Vabbè, è un problema. Che non ho mica tempo da perdere. Abbiamo veramente tante, abbiamo problemi più grossi, molto più seri. Smettetela di pigliare per il culo il Veneto quando sta lottando per la propria indipendenza e la propria libertà. Queste sono cose serissime. Beh, ricordatevelo, sono cose estremamente serie. Abbiamo patrioti in galera arrestati illegalmente e ingiustamente. Alcuni si sono proclamati anche prigionieri di guerra, certo, hanno tutto il diritto, questa è una guerra. Prigionieri di guerra. Sta facendo, è prigionieri una guerra. Ma una guerra purtroppo, di chi? Sì, è una guerra, vabbè, una guerra, ricordatevelo. Caro Bortotto, la saluto, l'abbraccio, sì, arrivederci, saluto, a presto, ciao. Baciamo le mani, come no, a voi. Baciamo le mani, adesso non l'ho detto, baciamo le mani, se vuole lo dico. Trasmissione sempre la migliore. Grillo in diretta dalla discarica di Malagrotta. Certo che sta battendo il territorio a mille, signor Grillo. E allora se prendi un sacchetto ti rendi conto come siamo ridotti, ed è colpa nostra. Io giro un po', mi informo, sono curioso per natura, se non avrei fatto questa roba che sto facendo. Sono curioso, io faccio 4 comizi al giorno gratuiti più uno a pagamento, cazzo, se, e per le spese. Allora vado, giro, allora il rifiuto di un'azienda deve essere la materia prima di un'altra. Dalla culla alla culla, sono 20 anni, vado nei politecnici di Zurigo, vado nelle università Wuppert tedesche e progettano il mondo, la politica è progettare le cose, l'economia. Noi prendiamo, spendiamo e usufruiamo e 100 miliardi di tonnellate di roba ogni anno. 100 miliardi le zanzare. Senti quello che ha detto poco fa, poco ma fa. È chiaro, ma cioè? Se tu hai a casa mia, voglio dirti questo, Cruciani, cretino di un Cruciani, a casa mia è pieno di rifiuti. Mia moglie se n'è andata, non capisco perché, solo rifiuti ci sono. Io le ho detto, amore, devi mangiarlo questo rifiuto, non devi tirare l'acqua, la carta del bagno quando l'hai usata una volta si può riutilizzare, lo metti nel freezer, lo tiri fuori, lo metti nel forno, lo ricucini. Ma come la carta? Secondo, la carta utilizzata nel bagno quando ti pulisci, quando defechi, no? Vai al bagno, ti pulisci, la carta, la usi la carta, no? E perché la devi riciclare poi? La devi mettere nel freezer e poi la riusi. Ma è sporca! Ma non è, tu sei sporco, in Germania lo fanno sempre. Ma non è vero. Senti sempre questa cosa che ha detto, senti questa cosa. Grillo, ci trasportiamo la cacca l'uno con l'altro, senti, senti. Questo è vero. Se cominci adesso a farne meno rifiuti, siamo in emergenza e ci toccherà prendere delle decisioni di emergenza. Cioè, già è stata commissariata, non ci sta più l'immondizia, ce la trasportiamo, ci facciamo come i bambini, capisci? La cacca ce la trasportiamo uno con l'altro. Cerani sui Balcani che vengono lontane le zanzare. Renzi è il figlio di Gelli. Adesso questo francamente è esagerato. Bisogna fare la campagna elettorale, va benissimo. Lui è contro, dice che l'abolizione della provincia è una farsa, e io in parte gli do ragione. È contro il Senato e per me è incomprensibile questa cosa. Giusto dire che l'abolizione del Senato non è vera e che il Senato resta in una forma farsesca in cui ci vanno i governatori, i sindaci che devono fare miliardi di cose, tra cui anche i senatori, e verranno rimborsati. Dunque la questione dei costi è tutta da definire, ci saranno piccoli risparmi. Giusto dire questo, ma non che ci vuole il bicameralismo perfetto perché è una garanzia. Comunque, Gelli, Renzi. Parliamo del vuoto, del nulla, uno che fa una legge elettorale con uno che non può andare a votare. Ma stiamo scherzando, lì c'è massoneria, P2, questo è il figlio di Gelli. Allora, il figlio, sì, è un figlioccio di Gelli, sta attuando questa politica, ma stiamo segando, ma lo avete capito anche voi, fate finta di stupirvi tutte le volte che vi dico le cose che poi mi dite in privato, hai ragione, siete veramente figli. E poi dice pure che Renzi merita il 41 bis perché è bugiardo, 41 bis. Renzi deve andare al 41 bis? Sì. Ciao, io esco, dove vai? Vado a prendere la Pravda. Giornalisti dietro le sbarre, vabbè, che sto ormai. Geno Maggio lo stregone Rasputin. Ci vai dietro le sbarre, grido. Perché è il mio sogno. David, hai qualcosa da dire su questo? Sui giornalisti dietro le sbarre? No, su tutto. Ma su tutto, semplicemente che li hai votati. Questa roba qui. Sì, ma avvicina questo maledetto microfono alla bocca, che ogni tanto si scosti e non si sente una mazza. Forza, dai. L'hai alimentata questa cosa, l'hai alimentata tu col tuo voto. Ma figurati, sono alimentata col mio voto, non dire stronzate, dai, su. Hai alimentato il fatto che questo qui va in giro a dire con i rifiuti. Adesso tu a casa tua devi fare quello che dice Grillo. Devi fare quello che dice Grillo con i rifiuti, ad esempio. Ma a me non me ne fotte nulla, io non faccio manco il riciclo dei rifiuti, metto tutto dentro, non me ne fotte un cazzo. Neanche la differenziata. Ma quando, ma ogni tanto la faccio così, ma sì, ma distrattamente. Devo dirlo, distrattamente. Metto l'umido, ogni tanto butto dentro tutto, mi scordo. Che devo fare? Ma guardate che lo fanno anche in Germania, eh. Sì, lo fanno dappertutto, è vero. ammazzatemi, eccoli qui, crocifiggetemi. Ogni tanto mi scordo e butto tutto dentro. Gennaro da Latina, dai. Buonasera, Cruciani. Senti, volevo dirti questo, ma tu devi fare attenzione, perché questo Parenzo si salva perché sta a Roma, tu stai a Milano, tu hai sentito quello di Veneto che cosa ti ha detto? Che mi ha detto? Che ti ha minacciato. Ma che ha minacciato? No, ma loro non si rendono conto, diciamo, quando tu ci dai lo spazio come razzi, praticamente tu li prendi in giro a tutti e loro non capiscono questo. Comunque io sono rimasto molto molto calmo, perché ti devo dire una cosa molto e che dovevi fare? Dovevi prendere il fucile? Non ho capito. No, per l'amor di Dio, noi non dobbiamo fare questo. Io non ho capito una cosa, Gennaro, tu da dove chiami? Da Latina o da Napoli? Io sono napoletano di Latina. Di Latina? Un sacco di napoletani a Latina ci sono. Sì, noi abbiamo trasportato. Vi siete installati, pure la camorra avete portato. Sì, diciamo. Abbiamo trasportato qua. E che poi noi pensavamo che la porcheria stesse a Napoli. Tu ne fai parte? Anche tu ne fai parte, caro Gennaro? No, purtroppo no. Io poi, se tu mi chiami in privato, ti dico perché non ne faccio parte. Perché? Lo dillo in pubblico, scusa, non lo vuoi dire in pubblico? No, perché non lo posso far parte, poi ti spiego. Sono stato una vittima dei casalesi. Vabbè. Capisci? Ecco perché mi trovo a Latina. Comunque volevo dirti questo. Per quanto riguarda i veneti, che io non credo che chissà quante ne sono, ma se veramente loro sono. Sono quelli che sono. Sì, diciamo, perché noi gli diamo una parte dove vogliono loro, si mettono per fatti loro e non ci seccano più, in modo che sembrano sempre che chiedono. Ho capito, come dice Lucci, se ne vanno ce lasciano in mutande. Ma guardi che non pensare che sono tante, perché io ho parenti in Veneto e i miei parenti erano quelli là della Lega della prima ora, adesso non hanno più niente a che vedere, perché vabbè, si sono comportati. Ho capito, Gennaro, grazie. Gianluca, provincia di Roma. Volevo dirti una cosa. Che mi volevi dire? Volevo dirti il bollettino medico da San Raffaele, quando l'avremo? L'11 aprile? No, perché? Perché che pensi che, che stanno facendo la muina a Berlusconi per ottenere. Io non penso niente, Cruciale, tu lo sai. Dai. Io ti voglio sempre bene. Cornute che non sono altro. Questi sono dei cornuti. La Zanzara. Sono come zanzare. Claudio da Cremona, intanto ultimi pezzi per la maglietta di Razzi. La Zanzara è radio24.it. Siamo oltre i 3.000 euro per un'associazione di disabili a Pescara. Mi raccomando, te lo dico da amico, fatti i cazzi tuoi. Sì, in questo caso noi non ci siamo fatti i cazzi degli altri, perché la Zanzara fa una, come dire, un'operazione stranamente di beneficenza, no Parenzo? Bisogna dirlo questo qua. Perché stranamente? Stranamente, perché noi non ce ne fottu una mazza, diciamo la verità. Questa volta sì. Di solito non ce ne fottu una mazza. Claudio da Cremona. Buonasera. Dica. Volevo solo segnalare che mentre alla Camera parlano del semaforo giallo, sì, ieri al Senato hanno fatto una mozione per il sostegno delle popolazioni del Sahara, pure il 16 di aprile sì, si discuterà a Bruxelles delle norme che regolano il Made in Italy. Vabbè, poi? Penso che questo sia più importante, sì, il semaforo giallo. È inutile lamentarsi della disoccupazione quando poi aziende delocalizzano e utilizzano il marchio Made in Italia. Va bene Claudio, non è la sedia adatta per parlare del Made in Italy, chiami la trasmissione precedente, ma siccome non si può chiamare mandi una mail. Gianluca dalla provincia di Roma. Gianluca? Pronto? Dai, pronto? Su, forza. Ciao, senti, allora volevo chiedere l'intervento del secessionista veneto, che appunto snocciolava un po' di numeri sui costi della sanità per i veneti paragonandola a quella dei laziali. Ma non lo so, eccetera, che dati snocciolava, non mi pare la questione principale dell'intervento di Bartotto, francamente. Allora, assolutamente no, semplicemente la questione è una. Dunque, premesso che secondo me le autonomie vanno rispettate, vabbè, e poi sarebbe tanto bisogno in questo paese. C'è un problema legato ai secessionisti e a tanta gente in questo paese che è della memoria. Nel senso la memoria, che il Veneto sì, si trova in questa condizione attualmente locomotiva d'Europa, ma semplicemente perché l'Italia l'ha fatto essere così. Mm. Il signor Bortolotto, eccetera, dov'erano quando il Veneto moriva di fame, quando la guerra, le donne venete venivano a fare le pulizie a Roma perché non avevano manco il pane da mangiare. Questo pure è vero. Fabrizio da Roma, grazie Fabrizio. Buonasera, allora, le donne venete, io non mi ricordo proprio nella storia che sono venuto a Roma a fare pulizia. Vabbè, poi? Comunque io mi farei adottare la Regione Veneto. Perché? Devo scrivere a Bortolotto, sì, no, c'ha pienamente ragione, ma lei, tu sai, te possiamo dare il tu stai a Milano, sì, non stai a Roma. No, no. Cioè lascia perdere. Se matto, venite sì a Roma, venite al mare. Se venite a Roma, venite al mare. Appunto, esatto. Tu sei di Roma, però la tua città è Milano. Ma no, me ne Dio me ne scansi liberi, sì, che stai scherzando? Esatto. Sono qui, sono qui. Ma io, ma ti invito a fare qualsiasi tipo di paragone con qualsiasi cittadino di, cioè, Roma. Cioè tu stai dicendo da romano preferiresti stare sotto, no, sotto il cappello di Bortotto piuttosto che a Roma? Io mi farei proprio adottare la regione Veneto e provincia e mi trasferirei proprio di corsa, indipendentemente dal fatto che adesso non sto lavorando, e vabbè, quello anche, cioè ti trasferiresti in Veneto proprio domani mattina? De corsa, proprio de corsa, il passaporto italiano glielo riconsegno a questura qui di Roma, ma de corsa proprio. Grazie Fabrizio. Non mi mordere il dito, non mi macchiare il vestito. Altro che vai in onda la zanzara, tra una vista e l'altra vai in onda la zanzara, mamma mia quanto mi massacrano. E non mi mordere il dito. Fosse solo la pubblicità, caro Parenzo, fosse solo la pubblicità. Vabbè, lasciamo perdere, dai. Ma certo, fosse solo la pubblicità il problema. Abbiamo un grande ritorno qui alla Zanzara, popolo della radio. Vittorio Sgarbi, buonasera. Eccolo. Eccoci qui, eccoci qui. Io però un po' l'ho chiamato Dario Fu. Perché? Perché aveva litigato anni fa, siamo tornati in buoni rapporti, siccome lui mi giudicava, l'ho chiamato Dario Fu, perché quello che è stato non è più quello che è. Dario è stato fondamentale. È stato per noi una potenza formidabile di comunicazione, non c'erano i grillo, non c'era niente, lui raccontava ai ragazzi che eravamo una storia meravigliosa. Poi sa perché, come forse si può capire, è uno dei tanti che se l'è presa con me, io l'ho chiamato Dario Fu. Ma adesso, ma come mai che se l'è presa con te, te lo ricordi? Ma sai, tutte le cose che ho fatto non era difficile criticare, persino Parenzo mi critica tante volte, quindi. Sì, a voglia Parenzo, sì. Parenzo che ogni tanto mi chiama e mi dice: ma ti ricordi di quando Sgarbi è stato condannato per quello? Ti ricordi di Sgarbi quando è stato, quando ha avuto quel processo lì? Ti dico: ma voglia processi, qui è pieno di processi da mattina alla sera. Quanti processi avrai in piedi? Io più di tutti, sono il primatista mondiale, ne ho 450. Mi è arrivato uno anche oggi, penso mi è arrivata una querela a riferimento a un articolo del 1 marzo del 2010 sulla questione De Pasquale Cagliari. Cioè De Pasquale, era l'assassino a De Pasquale, sicuro. Sì, era più o meno questo lo spirito, ma era riferimento al fatto che Cagliari, siccome lui era in vacanza, in ferie, ha fatto una lettera che tutti ricordiamo, come no, raccontando che era trattato come un cane e si è ucciso. Sì. E allora io all'epoca, qualcuno pensava che Assassini fosse riferito a Di Pietro, a Caselli, mi riferivo in particolare a questa cosa, che peraltro nell'articolo non ho ripetuto, ma ho ricordato che un uomo era morto perché un giudice è stato in ferie per un mese e mezzo senza interrogarlo. E lui ti ha fatto causa? Una causa che mi è arrivata oggi. Poi tra l'altro abbiamo dovuto recuperare l'articolo perché sono talmente strane ormai queste formule che usano, che non ti dicono l'oggetto, dice per una cosa sul giornale del 1 marzo non c'è scritto l'argomento. È arrivata una cosa pure per Parenzo, pare. Parenzo, ti avverto che è arrivata una cosa, poi te lo dirò dopo. È arrivata una cosa per te, è arrivata una cosa, te lo dico in diretta, è arrivata una roba, un fax, non mi ricordo che cosa, da parte di una società, perché una volta hai detto che i leghisti erano malati, erano pazzi, ti ricordi quando hai detto che chi porta le ampolle sul Po è un malato di mente, non so che associazione. Ho detto che sì, probabilmente un'associazione o qualcuno ti ha querelato e vuole un sacco di soldi per insulti, per diffamazione o cose di questo tipo. Che ti ma devo io dire? Credo, vabbè, adesso vedremo, cioè affronteremo il giudizio. Ma io credo che sopporterà anche questa. Ma sì, ma Parenzo ormai se la fa sotto, Parenzo, per qualsiasi cosa arriva, se la fa sotto. Una querela. Io invece ieri da Minutella, che ha una televisione, c'era lì un radiofonico palermitano che ha qualche affinità con voi come gusto. Sì. Ho detto cose inverosimili su Cancellieri, Alfano. Che ha fatto Cancellieri? Cancellieri ne ha fatte fin troppe, non è che non ne ha fatte. Ha legittimato il comportamento di una prefetta vicina alla mafia che ha mandato, cosa che forse avrete letto, a fare il commissario per lo scioglimento di Salemi un viceprefetto che è implicato con l'Andrangheta. Abbiamo scoperto questo, che quello che ha fatto lo scioglimento è l'Andrangheta. Ormai sono settimane che lo vedo. Allora, questa cosa qua, appunto, io l'ho detta insultando questo e quello, erano preoccupati delle guerre. Però questo qua è accusato di essere affiliato all'Andrangheta. È accusato, sono intercettazioni molto precise in cui lui spartisce soldi con queste, quindi non sono intercettazioni che valgono solo per il napoletano o per gli altri. Ma comunque non voglio entrare. Ma chi è che te lo fa fare di candidarti di nuovo? No, ma anche quella è un'invenzione pura, è una provocazione che ha determinato un grande movimento di. Cioè, non è vero che ti ricandidi a Salemi, diciamolo. Ho una lista e spero che il sindaco sia Parenzo. Allora facciamo così, però io io vorrei fare veramente l'assessore alla cultura a Salemi, no, alla cultura no perché non va bene. L'assessore di Sgarbi da qualche parte. L'assessore alla creatività, all'immaginazione, alla comunicazione. Sì, di qualche ti prego, fatti torna sindaco, sei stato. Magari lo facciamo in un altro comune più tranquillo, lo facciamo ad Aso, lo facciamo a Urbino, non so meglio. Ma in quanti comuni ti sei candidato? In quei... No, anche qui è la vostra tendenza a attribuirmi delle volontà che io sono un uomo passivo, io la mia regola anche con le televisioni è fare solo quello che mi viene chiesto. Io non chiedo niente, non ho mai chiesto niente a nessuno. Ma mi hanno chiesto di candidarmi 50 comuni. 50. L'ultimo a Brisighella, poi c'è Asolo, Tropea, Altomonte. Cioè, so, Pacchino, 50 comuni, 50 comuni ti hanno chiesto di candidarti. Almeno 50, Chianciano. Ma hai avuto più donne? Hai avuto più donne o più candidature nei comuni? Insomma, candidature nei comuni potrebbero essere 8.000, ma per il momento ne ho avute 50. Donne, no? Donne, diciamo, forse mi sono mosso con più articolazione. Diciamo. Con più articolazione, ma che numeri siamo? Io vorrei che numeri siamo con le donne? Vabbè, poi lasciamo perdere. Sai che la storia è questa: i maestri sono Simenon 10.000. Warren Beatty 12.400. Quando uscì l'articolo su Warren Beatty, sì, scrissero: ma Sgarbi in Italia 1.600. Sì. Io protestai flebilmente perché non avevo dato nessun numero, come sempre. Avevo semplicemente ripetuto la battuta di Schifano: ma tre al mese me le vuoi da? Allora, facendo i conti di tre al mese, che sono, sì, forse un po' meno della realtà, sì, si è arrivati, il giornalista è arrivato a 1.600. Però tre al mese... Sono pochi. I miei estimatori che potrebbero essere un po' meno della verità. Ma se fossero soltanto sei... siamo più o meno un la settimana, insomma, ecco, non so. Ma veramente non lo so, però non ho mai fatto il conto. Cioè, sei sui 3.000, sei sui 3.000. Potrei. 3.000. Cioè, potrei, non Cassano, lo so, potrei. Cassano te fa una pippa, come si dice in gergo. Ma Califano anche lui aveva... No, Cassano, so che Cassano. Vabbè, Cassano non li prendo neanche in considerazione, questi siamo dei livelli troppo elementari. Insomma. Cioè, troppo basici. Io lavoro dal 69, eh. Io ho cominciato, se ho una certa età, dal 69, quindi 45 anni. Cioè, di per esempio, adesso, piena. L'ultima volta quando l'hai fatto? Ieri sera. No, dai, non è vero, sì, dai. Sì. Ieri sera a Reggio Calabria, beh, sai, non... Ieri sera a Reggio Calabria hai scopato? Adesso queste parole non le uso, insomma. Ma che non le usi? Adesso tu mi vieni a dire che non le usi. Ma ho fatto delle carezze affettive, così che Vabbè, perché tu sai che, adesso te lo devo dire, non posso dirtelo in radio, che sul tema della quantità è chiaro che noi abbiamo dei limiti. Un uomo dopo un po' si ferma. Le donne possono farle, sai che, certo, c'è quel record, non c'è dubbio. La donna che ne ha fatte 87, una bielorussa, l'uomo ne può fare 3. Però c'è un modo perché tu debba misurare in una serata molto libera di persone disponibili di sesso femminile, nel mio caso, il punto di cedimento. E qual è? Perché quello che importa, non importa andare a letto con una donna per un atto di concupiscenza, quella è la necessità bestiale che uno può anche non avere più o averla consumata. No, devi avvertire che la donna è disponibile o che l'uomo è disponibile nel caso di un ribaltamento sessuale. E io il punto di cedimento so come misurarlo, ma non ve lo posso dire. Non ve lo dico perché no? Perché siamo alla radio, poi sono quelle cose che poi dopo diventano troppo. Comunque, c'è, bisogna cercare dove uno identifichi il punto di cedimento di una donna. Quella può dirsi quindi una conquista compiuta. Vabbè, ho capito, però questo non significa però una... Che significa? Adesso mi dici che è necessario che uno faccia una penetrazione? No, quello no. E allora la penetrazione mica si può fare soltanto con uno strumento, no? Beh, no, però si può fare in mille modi, certo. No, allora cos'è il problema? Anche mentalmente, che c'è? Anche mentalmente. Ma no, mentalmente funziona lo stesso, solo che mentalmente non hai la prova. La prova che la donna è integralmente disponibile nei tuoi confronti, o l'uomo, con il corpo e con l'anima, se l'hai, sei verso di te affettiva, ma si dimostra che è pronta a qualunque atto erotico. L'atto erotico si misura sia la compiutezza dell'atto sessuale, ma non solo. Ed è per quello che dicevo che il punto di cedimento è quello che dà la misura. E come lo verifichi tu? E questo appena ti incontro te lo racconto. Ah, non si può raccontare, tu dici. Uno sa il suo. È superata, questa cosa qui è superata, vabbè. No, dico, no, è superata, insomma, siamo alla radio, che se ne frega. Poi l'essenziale, comunque, la parola punto di cedimento è interessante, per dire quando è che una donna si abbandona, quando è pronta a darsi. Quando è pronta a darsi, posso anche non prenderla. Però quella cosa lì, tu la consideri una conquista? Un piatto di spaghetti pronti. Cosa vuoi dallo spaghetti? Che non si metta a parlare dicendo: ma vuoi mangiarmi? Se ce l'hai, lo vuoi mangiare, no? Allora, quando ti portano il piatto, tu puoi anche non mangiarlo, ma te l'hanno portato. Allora, il dato di fondo che è tuo è che un uomo può ritenersi al punto di compimento della sua seduzione quando la donna ha rinunciato alle sue resistenze. Però quella non la puoi considerare una conquista, invece tu la consideri. Sì. Come no? Scusa, lo capisce perfino Parenzo. Quando tu hai un piatto davanti, non è necessario che lo mangi. Se tu hai un piatto di riso, poi prendi una cucchiaiata, ma io non ce l'hai il piatto. Comunque, ragazzi, a proposito. Ragione, no, scusami, te lo spiego perché Sgarbi, questo ha perfettamente ragione. Siccome è la donna. Ma Sgarbi ha ragione perché tu fai di questa cosa la tua filosofia perché non sei in grado dopo. Ma non è vero, perché siccome è la donna che decide quando darsi, perché lei sembra che decide, non sei tu. Tu pensi tu che sei. Io sono Cruciani, ma chi se ne frega? È la donna che decide, però, se tu sei Cruciani, se dartela o no. Questa è la legge. Vabbè. Questo è sempre stato. Se no, c'è lo stupro, ovviamente, no? Perché e allora? E allora prosegui questo tuo ragionamento aulico, dimmi. No, non è aulico, è concretissimo. Quindi ti puoi considerare vincitore quando sai che la donna comunque. Ma questo è vero, però ragazzi, non facciamo filosofia, alla fine pronto, si va sul concreto, dai. Che di fronte una donna pronta a cedere si è addormentato. Ma sì. Ormai aveva capito. Non... Ma io posso anche dirti come ho scoperto che Amanda Lear è un uomo. Cioè come, scusa? Andavamo a famosa trasmissione con Amanda e allora ci andavano vari personaggi, Busa, a un certo punto vado io e questo comincia a parlarmi di Rilke, di Jung, di Freud, di Svevo. E allora io a un certo punto, finita la cosa che è durata mezz'ora, mi dicevo a lei come per toccarla. Lei no, si alza, va via, va nel suo camerino, io vado aggiungo nel camerino e mi dice, qua non si può, che c'è mio marito che sta dormendo, era lì che dormiva, quello che poi è stato bruciato nelle fiamme, come ricorderai, in tempi successivi. Lei allora a quel punto dice, vengo io da te, è venuto nel mio camerino, e prima che ci baciassimo, lei ha fatto un gesto tipicamente maschile, ha messo la sua mano sulle mie palle. Ora, tu ricorderai nella tua storia che nella seduzione nessuna donna, neanche una prostituta, ti tocca prima che ti tocchi lei. Tu la baci, lei si tira un po' indietro, le tocchi i segni, si tira più indietro. Poi alla fine, avanti e indietro, tu avanzi, lei arretra, finché a un certo punto si ferma e pronta al tuo avanzamento. Ma una donna che ti tocca le palle prima che tu sfiori lei non esiste. Era un riflesso della mentalità maschile di lei che, non so, sommato, sarà stata operata un giorno, ma è rimasta maschio nella testa. Cioè, lei prima me di quanto io non l'abbia fatto con lei. Questi elementi sono segnali, che ha inteso bene Parenzo, che vanno al di là dell'atto sessuale realizzato. Vabbè, questo però alla fine bisogna andare sul concreto, Vittorio. Tu fai quello, tu hai quella visione lì, e noi siamo invece più legati a un'astrazione. In una giornata in cui Grillo dice che Renzi è il figlioccio di Gelli, e questo mi pare francamente un po' esagerato per Grillo. Abbiamo con noi Vittorio Sgarbi, che ieri ha detto che secondo lui la mafia non esiste più perché minaccia Alfano. E poi ha detto anche che l'altro, come si chiama il magistrato, quello amico di Travaglio lì in Sicilia, quello della trattativa là, Ingroia, no, l'altro amico di Ingroia, come si chiama, Vittorio? Di Matteo, secondo te non corre alcun pericolo? Ma spiegami un po' perché la mafia secondo te è morta. Beh, non corre alcun pericolo, come dimostra il fatto che con grande incoscienza nell'aula bunker che lui ha rifiutato di frequentare nei giorni scorsi sono stati ospitati, verranno ospitati 150 studenti e ragazzini. Evidentemente la mafia non è pericolosa per loro, ma soltanto per lui, quindi il pericolo del sito è legato soltanto alla sua augusta figura. La quale augusta figura certamente corre dei rischi, come ricorre evidentemente Ingroia, perché non è che Riina nel vendicarsi dimentica quello che Ingroia ha fatto, e tantomeno Tinebra. Ora, vi ricordate Tinebra? Sì. Come mai nessuno si preoccupa dell'incolumità di Tinebra? Forse Tinebra non combatte abbastanza la mafia? Non si occupa abbastanza di trattativa? E dunque? Come mai soltanto Di Matteo è minacciato? Perché delle tante cose che ha detto Riina hanno voluto far conoscere, pubblicando le intercettazioni che potevano essere non far pubblicare e che erano del tutto sconosciute anche alla Cancellieri, il passaggio in cui lui dice che vuole far saltare questo. Naturalmente ci sarà un margine di pericolo in ogni frase detta, certo. Ma uno che da 20 anni al 41 bis, cioè in condizioni di totale impossibilità di comunicare se non con quello che gli hanno messo a fianco per parlare, evidentemente non può essere pericoloso come quando era libero. Quindi o lo Stato non esiste, non è in grado di fare nulla, oppure qualunque mafioso in carcere è pericoloso come quando era libero, cosa improbabile. E allora la mia teoria è che fra qualche anno troveremo Di Matteo in politica, che per 40 anni almeno nessuno lo sfiorerà un tello, e che non si capisce perché Ingroia non debba essere altrettanto a rischio, visto che ha fatto l'inchiesta con lui. E la mafia non dimentica, dici tu. Allora, su questo la mafia non dimentica. Su questo si aggiunge il fatto... Ma perché dici che la mafia non esiste? No, quella era la battuta per dire che la mafia che si preoccupa di uccidere Alfano vuol dire che veramente si vede che non sa cosa fare. Ma tu hai visto i manifesti di Alfano per strada? Sì, patetici. E proprio mentre seguono i manifesti ha fatto uscire lui, ha fatto Di Matteo uscire la notizia di Rina, che la mafia lo voleva uccidere. Quindi è uscita questa notizia, chissà perché, poi una volta che la mafia ha eliminato Alfano, che cosa cambia? Forse che la pressione della polizia rispetto alla mafia cala, ma no, forse che lui riesce a incrementare la potenza di fuoco della polizia, è chiaramente una forma autopromozionale, ma ancora una volta vedrai che non mi querelerà. Ma hai visto quei manifesti, lui che c'è scritto coraggio, no, con i pugni. Coraggio di che? Coraggio di aver mandato a cagare Berlusconi per rimanere al governo dopo che aveva avuto Berlusconi, più che coraggio si chiama vigliaccheria, però farà come gli pare, questo fa parte della politica. Ma il pericolo che lui corre, ma se non prende il 4% godi come un pazzo. Alle europee. Beh, insomma, credo che sia quello che gli dovrà toccare. Non immagino che qualcuno. Beh, si sono messi insieme con Casini, che ne sai? Tutto. Ecco, sai che quando ti metti insieme con Casini, hai visto Monti come è finito? Casini è pericoloso. Se ti metti insieme con Casini, meglio che tu stia con Berlusconi per avere un buon risultato. A proposito, con Casini, può darsi che ti porti via i voti, non che te li porti. A proposito di Berlusconi, hai visto che si è fatto male? Ma no, visto che l'ha ricordato San Raffaele. Sì, la situazione però è drammatica lì, la situazione è drammatica. Sì, ma è drammatico tutto. Io posso dirti che se lui dovesse avere una malattia grave o morire, forse sarebbe meglio per lui, non per noi. Perché dici sarebbe meglio? Perché uscirebbe da questa, sarebbe alla fine. Perché una liberazione, dici? Una liberazione. Liberazione umana, non può essere un augurio o un pensiero, ma pensa cosa gli capita se viene condannato definitivamente per rubi. Cosa gli capita ai servizi sociali? Perché lui ha un elemento che nessuno ha valutato, non potrà avere i servizi sociali perché è scortato da 6 uomini. I 6 uomini hanno il principio della tutela per una persona preziosa e minacciata come Di Matteo, che prevalgono sopra i servizi sociali, quindi non potrebbe mai farlo. Ma figurati, resteranno fuori. Un ufficio chiuso? Oppure, scusa, Di Matteo gli hanno proposto un carro armato e non è andato perché la tutela della persona è più importante della funzione. Allora, se la funzione è fare i servizi sociali, uno che ha 6 uomini di scorta può avere il caposcorta di sguardi, non faccia questo, non faccia quello, perché corre un rischio. È un lavoro che sia paritario con altri, lui non può accedere. Quindi ma come finirà secondo te? Tu dici no, sarebbe meglio... Credo avrai domiciliari, perché i domiciliari risolvono l'antinomia di essere da un lato al servizio dello Stato e dall'altro tutelato dallo Stato. Cioè, ma qualcuno dice che anche i domiciliari si potranno trasformare in un grande reality con processioni di persone sotto casa. Ammesso che glielo concedano, ma questo sembrerebbe impedito, mentre i servizi sociali ti lasciano un margine di libertà, perché tu espleti un lavoro e poi torni a casa. Ma in quel lavoro deve spostarsi, o glielo fanno fare a casa sua, o lo fa in un ufficio vicino al suo. Ma c'è tra i figli qualcuno di intelligente, secondo te, o sono tutti nettamente inferiori al padre? No, i figli sono anche più intelligenti di lui. Barbara ha detto le cose che mi ha anche telefonato per dirmelo, cioè? Che tutti quelli che gli stanno intorno hanno tradito completamente il suo pensiero e hanno approfittato di lui, su quella intervista meravigliosa, ha sempre detto cose intelligenti. Marina è più legata effettivamente al padre e si muove nell'ambito imprenditoriale. Ma cioè, che ti ha detto Barbara? Non ho capito. Che ti ha detto? Ha detto Barbara che lui è circondato di parassiti, di gente che ha soltanto preso senza nulla dare, che ha tradito il suo pensiero. Ma è un'intervista di 2 mesi fa e non è che è molto... Sì, no, no, no, no, ma è un pensiero lucidissimo, ha detto la verità, perché da Verdini, ma ti pare che uno può avere Verdini vicino? E ha Verdini vicino perché? Perché Verdini con la firma di Berlusconi può avere un prestito di 7 milioni da una banca, questa è la realtà. E cioè, tutti quelli senso... che sono intorno, da Alfano agli altri, hanno solo avuto opposti o vantaggi. Per cui lei ha indicato perfettamente questa catena, cioè, di chiunque intorno mondi, a Berlusconi tutti, è un parassita. Tutti, vabbè, anche tu avrei avuto, anche tu avrei avuto qualcosa da Berlusconi. Cosa per cui ti dico, io ho solo dato a Berlusconi. No, aspetta, io non ti ho detto niente. Quando mi hanno dato mi hanno tolto, perché io sono andato un anno a fare soldi, mi hanno tolto subito. Però, quindi non ho avuto nulla. Mai nulla da Berlusconi. Io ho fatto Scalvi Quotidiani prima che scendesse in campo. Io ho fatto il parlamentare prima di lui. Mai denaro, denaro idee. Mai, denaro mai. Beh, il denaro che ho avuto lavorando per la Mediaset. No, beh, certo. Però ho dovuto pagare 60% sulle querele e loro il 40, anche in quello io pagavo di più. Cioè, una querela metti da 100.000 euro, sì, io pago 60.000 e loro 40.000. Sì, ho capito. Ma quello fa parte delle tutele che uno tu lo sai che lo sai, Parenzo, che Sgarbi ha ereditato un castello, una cosa meravigliosa. Adesso, no, lascia che ti dica una cosa. Pazzesca, uno, un castello pazzesco. No, lascia che ti dica una cosa. Uno, Vittorio, uno. Che ci vuoi fare con questo castello? Devo andarlo a vedere per capire se si possono fare mostre, attività espositiva, musei. Io lo conosco quando era arredato, ma quando era arredato era pieno di cose, quindi era una signora molto piena di passione per l'arte che pensavo avesse avuto un'idea. Pensa come saranno incazzati, anni, pensa come saranno incazzati gli eredi, che ha lasciato a sgai. Ma credo che poi gli eredi molto vicini, forse una figura più Parenzo, che c'è? Poi chiudiamo. No, volevo dire questo. Sgarbi, quando fu sindaco di Salemi, ebbe un'intuizione straordinaria, siccome si parlava di mafia, ed era quella di fare il museo della mafia, che è un'intenzione da un punto di vista anche turistico straordinario, perché usa un solo brand. Prima di Las Vegas andava un sacco di gente, abbiamo incassato 63.000 euro in pochi mesi, i commissari mafiosi hanno tolto la pubblicità dall'aeroporto, tu pensi alla roba, ed era fatto la ma il brand mafia va sfruttato secondo te? Beh, ovviamente aveva pensato che Toscani con me, certamente, come i film, quei film sulla mafia non hanno successo. Il Museo della Mafia era popolatissimo ed era fatto benissimo. Inzerillo ha fatto una cosa. Inzerillo era lo scenografo di Pria e Maresco, quindi un uomo bravissimo. Però molti dicono che, per esempio, sfruttare il brand mafia, eccetera, è un errore perché uno dà un'immagine negativa, eccetera. Una cazzata, pure secondo me è una cazzata. 60, quindi è una storia vera. Comincia con l'Unità d'Italia. Quando c'è l'Unità d'Italia, la mafia è come la reazione locale per difendere il partitarismo di quelli che non volevano accedere all'idea dell'unità. Bisogna utilizzare il brand mafia. Vabbè, comunque Toscani continua a parlare male di te. Ogni tanto dice che vuole fare, si vuole ricandidare a Salemi, che fa per andare lì a fare. Ma quello ha ragione lui, perché sono delle boutade per creare in qualche modo sconcerto. Poi magari una lista si può fare, però sarei felice che fossi tu il sindaco. Devo trovare sindaco, qualcuno degno di ereditare vediamo la mia azione. Ciao Vittorio, a presto. Ciao, ciao vecchio mio, ciao. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché grande prezzo su di me. Mi ha beccato. Gratta, gratta, ma peggio. Picerno Travaglio. Grande battaglia. Dimmi. Potresti leggermi alla zanzara questo capo di imputazione che mi sarebbe arrivato? No, poi ne parliamo dopo, dai. Chi se ne frega, dai. Su Wi-Fi hai detto una cosa sulla Lega, c'è qualche pazzo mi che ti vuole. Stanno chiamando un sacco di persone per sapere anche. Vabbè, qualcuno. Non ti preoccupare, adesso dopo te lo leggerò. Darvi annunci alla radio. È arrivato un fax. Potevi dirmelo in separata sede. Ma qual è il problema? Che ti frega? Un'associazione. Non c'è problema, ma è per capire, visto che l'hai detto aperti sberti. Vabbè, non gliene frega niente a nessuno. Cioè, non interessa a nessuno. Che è nato alla zanzara, allora, c'è. Hai detto un giorno che leggilo. Chi porta. Non lo so, non ce l'ho dietro adesso. Fammi proseguire un attimo, dai. L'hai tirato fuori tu? Sì, ho capito. È arrivato oggi un fax in cui si annuncia una querela in cui ti chiedono, non lo so, 200.000 euro, mi sembra, una cosa del genere. Per 200.000 vogliono, eccetera. Ma io non ce neanche 1.000 euro, guarda. Ma non mi interessa, questo è quello che chiedono. Ti chiedono 200.000 euro. Io nomino Taormina. Allora, adesso fatemelo riprendere, dopo te lo dico. Allora. Adesso chiamo Carlo subito. Una botta col bacio e poi all'altro, una botta nel braccio e poi all'altro. Ah sì, Dario Fo, no, dopo facciamo Picerno Travaglio. Dario Fo, Renzi, qui è, mi sa, un po', non dico ubriaco, però. Matteo Renzi, se devo dire la verità, mi pare uno che di professione faccia il giocatore di poker d'azzardo. Poker col morto, che è il morto? Letta, non l'ha fatto fuori lui? Ah no, è stato il suo partito. Ah, ho capito, una congiura di palazzo. Viva il re! Quale re? Giorgio I. E poi all'altro, una botta nel braccio e poi all'altro. Ma alla vostra base gliel'avete detto che quel tuo socio è stato condannato definitivamente per concussione, corruzione ed è proibito a lui presentarsi in politica sotto qualsiasi travestimento, anche quello da suora domenicana, come dire suor Cristina, che canta in controfalsetto spinto in rock. Dove eravamo? Al progetto. Ma peso è. Chiamo io? Beh, sempre geniale. Ma no, era una battuta perché è il Gramlò di Dario Fo. Ma quale Gramlò? Dai, senti. Si chiama Gramlò, si chiama. Sì, lo so, in questo gioco tu ci stai mettendo la faccia. Lo vai ripetendo di continuo. È una faccia di gomma, una maschera anti-smog. Tu ci metti la faccia, ti crediamo. Ma il popolo, cosa ci metti? Il culo? Cristian Torino, dai. Poi sentiremo Parenzo Picerno ieri sera al servizio pubblico, vai. Buonasera Giuseppe. Buonasera Cristian. Allora, ascolta, io volevo dire una cosa riguardo al signore che è intervenuto prima. Io penso che tu sei un bravissimo conduttore. Allora? Però credo una cosa, credo che a volte sbagli. Mi a posso volte permettere sbagli. Di... No, a volte sbagli. Beh, certo, certamente sbaglio. No, vabbè, è un mio giudizio, penso che... Sai perché sbagli? Perché a volte ti fai prendere troppo dal fare il tuo lavoro e dai spazio a queste persone che non ha nessun senso questa persona, quello che dice, cioè è assurdo pensare che magari suo nonno, il suo bisnonno ha fatto la guerra per poter dare a lui quello che lui ha oggi. E lui si comporta e dice delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Ho capito, ma allora... a sto punto sbagli tu, perché io capisco che a te piace fare audience, fare però quello non merita assolutamente spazio. Chi merita o non merita spazio lo decido io, hai capito o no? No. Lo decido io, chiaro? Chiaro? Understand? Non è chiaro. Comunque io ti ringrazio. Ciao. Ti ringrazio. Ciao. Ronda, ronda, ronda, se va bene ronda. Understand? Dopo invece s'appoggia proprio addosso a me. Ancora a casa, Simo. Parenzo? Secondo me, sai che tra i secessionisti, pensavo, manca Vanna Marchi. Perché? Perché sarebbe straordinario. La signora Marchi lì a riunioni mentre costruiscono il tank. D'accordo? E lei è lì, tutti discutono, allora è nazione veneta, la nazione veneta, d'accordo? D'accordo? Sei un coglione, guarda. Abbiamo qui un tank ottimo, appena un trattore, capite? A quanto lo vendete il tanko? Lo vendiamo soltanto a 40.000 euro, ma solo per oggi, d'accordo? D'accordo? Sì, avvicinati a sto cazzo di telefono, dai. Allora, no, Mughini, stasera no. Allora, invito il direttore a provvedere alla rettifica, ti sto leggendo, di tali affermazioni, nonché il signor Parenzo al risarcimento del danno ammontante alla somma di 200.000 euro. Da inviare... No, ma è inutile che scherzi, da inviare presso in favore del mio assistito, il quale, come simpatizzante del partito della Lega Nord, che ha votato fin dalle politiche del 2008, non ha assolutamente nessuna tara o malattia mentale, perché avevi detto che avevano una tara o malattia mentale. E pertanto, chi si presenta, sì, e sì, pertanto sì. Si è sentito leso da quanto affermato dal citato giornalista. Dissenti saluti, c'è un avvocato che ha iniziato. Ma mi sento leso io? Amico mio, io ti sto leggendo quello che è arrivato. Vabbè, e vuole 200.000 euro perché si sente leso. No, per diffamazione vuole 200, per quello che hai detto. E dove sarebbe la diffamazione? Ma che ne so io, perché hai detto che uno che va con... Io nomino Tormina. Voglio nominarlo sul campo. Però c'è un caso scandaloso, mentre abbiamo un ospite, l'ultimo ospite della serata e della settimana, che è un grande ospite, un grande ritorno alla Zanzara. Il caso vero che abbiamo colpevolmente trascurato è quello di uno dei capi di Mozilla, sai il sì. Coso, no? Il come diavolo il si sito, chiama? Il no, sito, ma che sito? Il browser, non mi veniva la parola. Brendan Hake, che non è Eichmann, anche se poi qualcuno lo ha criticato e ha fatto questa associazione ironica. Brendan Hake, il quale, accusato di omofobia, è stato costretto alle dimissioni. Perché le associazioni LGBT in America, cioè le associazioni gay in America, gli stavano facendo un mazzo così a Mozilla. Avevano bloccato l'accesso al browser, eccetera. Questo signore in realtà è semplicemente contro i matrimoni gay. Io sono a favore. Vabbè. Lui è contro. Per essere contro i matrimoni gay, questo signore è stato costretto alle dimissioni da Mozilla, capito? Costretto alle dimissioni. Ma abbiamo con noi Bebo Storti. Buonasera. Buonasera carissimi. Ciao. Buonasera. Bebo, come stai? Ciao, come va? Tutto bene? Beh, ciao, ce la caviamo. Sì, bene, i giudizi sulla politica di Bebo Storti questa sera li attendiamo. Ultimo spettacolo di Bebo Storti è Il Testimone. Dove lo fai Il Testimone, Bebo? Questa sera siamo vicino a Brescia, Gardone Riviera. È uno spettacolo sulla mafia, sull'omicidio di mafia, l'omicidio di un giudice. Sì. In cui successivamente nella vicenda processuale che riguarda le indagini, sì, sulla morte del giudice intervenne in modo oppressivo nei confronti del ministro della giustizia di allora, Giulio Andreotti, per spostare il processo che poi saltò per aria, nel senso che tutte le condanne vennero poi... Cioè, scusa, ma secondo te Andreotti è un mafioso? No, assolutamente no, figuriamoci, chi lo dice? E che ne so? Chi si permette di dire questa cosa? È una domanda che ti faccio, caro Bebo. È mafioso? Ha avuto contatti con la mafia? Beh, è stato condannato, poi prescritto. Fino poi al 1980, condannato. Sì. Molti dicono che è stato assolto, ma bisogna una volta per tutte sfatare questa leggenda. Andreotti è stato accusato di essere di concorso esterno in associazione mafiosa, condannato nel 1980, poi prescritto per i reati, questo è. Vabbè, comunque, quando state a Milano che vi venga a trovare? Siamo a Milano, credo intorno a settembre-ottobre, ci fai un grande piacere, perché questo è uno spettacolo che racconta di una... Sì. Un spettacolo è molto... La vicenda è molto complessa, però in sostanza Andreotti intervenne per spostare il processo e per sedare tutto, come fece, credo, ma vabbè, non è uno spettacolo contro Andreotti, dai, diciamola tutta. No, non è uno spettacolo contro Andreotti, è uno spettacolo sulla trattativa Stato-Mafia, che molti dicono essere cominciata nel 92, se ne accorgono nel 2000. Qualcuno dice che non esiste nemmeno la trattativa Stato-Mafia. Certo, la mafia è una sensazione, qualcuno dice... Poi però di questa sensazione dicono che non possiamo fare a meno di non dirci mafiosi successivamente, quindi che si chiariscano le idee peraltro tra di loro. Senti, caro Bebo, dammi un tuo giudizio su Renzi, diciamola tutta, come ti sembra da questi primi, da queste prime settimane? Ma allora io ti posso dire con grande sincerità. Sì, che la tua sincerità. La mia sincerità, che a me io c'ho veramente paura. Addirittura? Mi sto cagando addosso. Ma cagando addosso? Sì, sì, sì. Cioè, che ti sembra? Un nuovo Berlusconi? Come? Un nuovo Berlusconi, che ti sembra? Un nuovo Berlusconi, mi cago addosso anch'io, per solidarietà. No, ho paura perché vedo che l'Italia è affidata a un gruppo di quantomeno di persone che non sanno fare il loro lavoro. Non dico incapaci, ma che non sanno fare il loro lavoro. Ma lui dice di essere per il cambiamento, il rinnovamento. Infatti si vede, ma vedremo, guarda, tutte le cose che sta proponendo poi hanno un ritorno, anche queste delle province. Sì. In realtà si chiudono, però le persone poi vengono mantenute sul posto di lavoro, magari costeranno anche di più. Quindi alla fine gli italiani chiederanno di aver chiuso le province, di aver risparmiato. Ma perché hai paura però? Mi hai detto hai paura, perché? Ho paura perché vedo il paese che sta andando, dove c'è un tasso di disoccupazione altissimo. Vabbè, però Renzi non ti parla la svolta, dice il Senato, le province, da 80 euro in più, perché non è la svolta? Oggi Grillo ha detto addirittura sembra il progetto di Gelli. Beh, un po' sì, lo è, ma questo da anni, è dal 92 che è il progetto di Gelli questo. Sono passati 22 anni, non mi sembra una gran novità. Cioè, io sono d'accordo con Grillo, comunque lo stimo per tante cose che dice, ma non è una novità. Il fatto che vede Verdini, per esempio, no? Che si incontra con Verdini. Beh, il fatto che Berlusconi, che comunque è un condannato, vada a parlare col Presidente della Repubblica di riforme, mi sembra molto irrituale. Cioè, uno schifo, no? Dici, uno schifo questa roba qua. Sì. Senti, Berlusconi... Io paura che Renzi non sia capace di gestire, come ho detto su Twitter, i cambiamenti, la capacità di gestione del paese di Renzi sono un po' come le mutande di Paris Hilton. Cioè, che c'entrano Renzi? Non si vedono. Si vedono. Ho capito. Parenzo? Io volevo capire da Bebo invece un giudizio sui Serenissimi. Un giudizio sui Serenissimi, certo, su quello che è accaduto con i separatisti veneti. Cito un loro, per quanto loro lo detestino, un ex leghista virgolettato, che dice che mai c'è solo quattro monache che ha fatto una stronzata e basta così. Perché non si rendono conto, forse loro non si rendono conto perché non hanno cultura. C'è una roba da manicomio, secondo te, più che da inchiesta, da manicomio criminale. Mi sembra una tale puttanata, mi sembra, prendere un finto carro armato, dire che vogliamo andare giù con i cioè, esagerata pure l'inchiesta, oppure non era il caso di mettere in galera, dici? Ma io, ecco, su questa cosa di mettere in galera, secondo me, non mi trovo d'accordo, mi sembra una stronzata. Io ero per il manicomio criminale, cioè più che per Fidiamoli i servizi sociali, ci sono tante signore anziane che hanno bisogno di portare a casa qualche soldino, gli facciamo fare, capito, gli facciamo portare in giro gli anziani, queste cose capito? Sì. Ma veramente le regioni hanno un potere in Italia non indifferente, no? Cioè, stanno anche lavorando per togliere un po' di potere alle regioni, perché le regioni legittimano, decidono di sanità, decidono di economia, decidono anche di tasse, prendono. Non mi sembra veramente, Senti, intanto Berlusconi aspetta questa sentenza del 10 aprile, no, caro Bebo? Sì, certo. I servizi sociali oppure i domiciliari, il partito sembra che stia franando dal punto di vista elettorale. Tra l'altro io ho bisogno di uno che mi metta a posto il giardino almeno una volta alla settimana, però me lo manda bene. Beh, fai una cosa, scusa Bebo, fai un appello ai giudici di Milano. Un piatto di minestra da me, lo trovi sempre. Porta anche Dudu, che a me gli animali piacciono, ecco. Porta anche la Pascale, capito? Porta quella è Dudu però, no, Pascale, che c'entra? Dudu, Dudu. Brunetta avverte i giustizialisti. Senti, tremate, sta tornando Berlusconi. Senti Brunetta, ti faccio ascoltare. Berlusconi dà il meglio di sé quando è in difficoltà. E quindi, tremate. Soprattutto i nemici della democrazia, giustizialisti e furbacchioni e furbastri, tremate. Non me moleste moschi. Com'era? Ripetiamo, Parenzo. Tremate. Le streghe sono tornate. Io ho capito. Remate. No, tremate. No, io. Quando vedi Brunetta in televisione, che succede? Io quando vedo Brunetta in televisione, ma a me è simpatico Brunetta, figurati. È forte, eh? In tutto il suo parlare, urlare, incazzarsi, fare le faccine e tutto quanto. Sì. A me è anche simpatico, perché comunque. È lì così, capito? Si fa vedere, si fa sentire, giustamente, ha anche bisogno di farsi sentire e vedere, perché deve tenere alto il nome di un partito che è stato rifondato dopo 20 anni con lo stesso nome, più o meno le stesse persone, ma che c'erano anche 20 anni prima di quei 20 anni, perché noi non sappiamo, per quello io ho paura, perché sono le stesse persone che ci hanno trascinato dagli anni 80 fino al 2014, che hanno portato questo paese alla rovina. Però Renzi non è così, non è di questa banda. Non è così, tu dici che non è così. No, non è di questo, almeno non è di questo gruppo, perché 20 anni fa non c'era. No, certo, ci mettiamo su una cena, ma io anche di questo, io su questa gioventù palesata... Ha fatto sempre politica, devo dire. Sarei anche un po' attento io a dire che non è di questa risma. Nella DC. Nella DC, vabbè, che vuol dire? Che siccome uno era della DC non faceva politica? No, questo sì. Questo stai dicendo? No. Ti accuso, davanti a tutti. No, per carità. Vabbè, senti, un'ultima cosa, ma Imarò. Sì. Tutti si lamentano, ce li devono restituire, allora, uno scandalo, una vergogna. Tu hai un'idea diversa, dilla chiaramente, mi farò dei nemici. Hanno commesso un reato? La giustizia indiana sta procedendo per verificare quanto debbano scontare di pena, se debbono scontare di pena. Non rompeteci più il cazzo con la storia dei Marò. Hanno commesso un reato, pagheranno se sono colpevoli, se risulteranno innocenti, torneranno a casa. Mi sono rotto veramente i coglioni, io, di perdere, perché poi deviano l'attenzione alle cose. La cosa più importante, sai qual è? Qual è? Che ci sono 3 milioni e 300, c'è il 3,3% di occupazione, 3.300.000. Sono due cose diverse, però. Sì. Tu dici. Lasciate giudicare gli indiani. Qualcuno dice che deve giudicare la legge internazionale, non devono essere giudicati in India. Invece. Peccato che i morti siano indiani, quindi forse la ragione ce l'hanno loro. No. Che ne so, questo lo dici tu. No, questo lo dico io non sono. Però ti fa incazzare questo. Ti fa incazzare questo patriottismo sui Marò. Sì, ma a me fa incazzare il patriottismo quando poi l'Italia è il paese più sdrenato del mondo per tantissimi motivi che non sto qui a ripetere. Soltanto ieri il Consiglio Superiore della Magistratura ha deciso che Di Matteo era innocente, adesso vogliono spostare il processo a Caltanissetta e ci sono una marea di disoccupati. Imprenditori continuano a suicidarsi. Tu dici a noi parliamo dei Marò. E noi parliamo di Marò, ma che due Marò, cioè, ma nel vero senso della parola. Cioè. Vabbè, ciao Bebo, a presto, ciao. Ciao caro. Gianfranco Padova. Salve, sono Gianfranco dalla provincia di Padova. No, volevo dire una cosa semplicemente, che sì, l'utilizzo del TSO è proprio un classico che voleva Parenzo, mi pare, è un classico del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, cioè eliminare i nemici attraverso facendoli passare per matti. Altre due cosette velocissime. Cioè, non ho capito, perché te la prendi con Parenzo? Non ho capito bene. No, perché lui ha detto che il sindaco del paese dove abitava quel Serenissimo voleva procurare il TSO a quel Serenissimo. Cioè, questa è l'eliminazione classica del nemico attraverso... Vabbè, ma dai, su Gianfranco, pure te, dai. Comunque, due cose, altre due cose rapidissime. Io ho un filmato in cui la polizia impedisce a persone che volevano esporre la bandiera di San Marco in piazza San Marco, cioè che gli impediscono di esporre la bandiera. Un'altra cosa, c'è gente che gira con la patente e la carta d'identità veneta, ve lo posso garantire. Vabbè, ma quelli sono matti che vanno internati, ma vanno internati chi gira con la carta d'identità veneta? Ma non esiste la carta d'identità veneta! E vi parla... lo so, non esiste, però se vai in Germania e gli mostri la carta d'identità veneta, ti fanno passare, o una patente, cioè giri. Giri, te lo posso garantire, l'ho visto. Vabbè, ma se qualcuno gira è patente, fuori di testa. Cioè, sì, si fanno, uno può avere tutte le utopie del mondo e secondo me per superare le quello che è successo in Italia, il dramma dell'Italia, il dramma delle istituzioni, può darsi che si debba pensare a un'altra architettura con un federalismo spinto, in alcuni casi anche l'indipendenza, non lo so, può essere, ci ragiono, non ho prevenzioni, io non ho il prosciutto davanti agli occhi. Però uno non può. Sì, d'accordo, però uno non può girare adesso con una roba che è una finta carta d'identità con scritto sopra Movimento di Liberazione Nazionale del Veneto, perché altrimenti arrivano i carabinieri, ma i carabinieri non perché io faccio ma il tipo... arrivano i carabinieri, ma arrivano, ma arrivano gli infermieri, guarda, gli infermieri. Guarda, ti dico che queste persone sono state fermate dai carabinieri, sono state che si sono messi a ridere a Cittadella e non gli hanno potuto fare niente. Vabbè, d'accordo. Questo te lo posso garantire io. Per forza, perché hanno chiamato... No, perché? Perché è semplicissimo. Perché tu non puoi mettere dentro delle persone che si dichiarano indipendentiste. Ma sì, ma queste persone qua però sono state messe dentro, secondo me, sbagliando, per altri reati, no? Ma non per reati d'opinione. Sono stati messi dentro per articoli... Questa è un'altra cosa, te lo posso garantire, ma c'è gente che è autenticamente pacifista, certo. Non ha nessun legame assolutamente con quei signori, assolutamente vuole l'indipendenza, ma certo, ma lo sappiamo anche e noi, non è che non lo sappiamo, mi dispiace, ma lo sappiamo, lo sappiamo. Grazie Gianfranco, grazie, ciao. Allora, mi ha scritto Baldelli, che ha presentato quell'interrogazione sul semaforo giallo. Se date anche quello che mi ha risposto il governo sul giallo breve, chi vi segue quando torna a casa in macchina è molto contento. Adesso però, caro Baldelli, con tutto l'affetto che ti voglio, con tutta la tua simpatia e bravura, eccetera, non mi convincerai mai, caro amico, non mi convincerai mai che presentare un'interrogazione parlamentare sulla durata del semaforo giallo sia qualcosa che il Parlamento deve discutere. Non mi convincerai mai, nemmeno se stiamo tre ore, non mi convincerai mai. Il tema esiste. Ma esisterà, certo che esisterà il tema, ma non voglio che si discuta in Parlamento di questo tema, non me ne frega niente, io capisco che ci sarà, che ne so, gli elettori automobilisti. Che cosa? Hai detto una cosa non vera. Hai detto, ma chi me ne frega a me se il semaforo giallo. Ma no, ma lì scherzavo, dai. Ma invece è importante che duri quanto deve durare. È fondamentale, col giallo è pericolosissimo. L'ho visto dall'esame della patente. Cosa devi fare quando c'è vite? Sì, d'accordo, ma non voglio che si discuta in Parlamento di questa roba qua. Voglio che decidano i tecnici del Ministero dei Trasporti. Punto e basta. Cosa devi fare? Allora, Giovanni da Roma, fammi sentire Giovanni da Roma. Ma va benissimo, ma non perché ne deve parlare Baldelli, il vice ministro dell'economia? Perché perdere tempo, carta, scartoffie e minuti del Parlamento per queste puttanate? Dai, Giovanni da Roma. Ma no, ma va bene, ma c'hai ragione, occorre il Ministero dei Trasporti, sono d'accordo. Allora. È tutta una questione di curriculum. E in che senso, scusa Giovanni? Competenze. Vabbè, dunque... Taglio corto. Ecco. C'è presente l'Autostrada del Sole? Sì. Cioè tu da Firenze arrivi a Tigliano, acceleri, capito? Sì. Ecco, c'è uno che ha accelerato un paio d'annetti fa. E dove gira a Orte? C'è stato svincolo, Orte, capito? O vai dritto a Roma o gira a Orte? Questo era un po' indeciso, andava talmente forte, io penso andava almeno a 300. E è andato dritto, è andato di sotto. O sai chi era questo? Un tal Nencini. Sì. Nencioni. E allora? Sì, me lo ricordo, sì. Poi è diventato, che è diventato vice ministro adesso, sì, hai ragione. È questo. era allora, altra risposta del, del Consiglio regionale della regione. E vabbè, lì paga la multa, è quello che è. Controrisposta di Baldelli: voglio far saltare questo giochino che tra autovelox messi a tradimento subito dopo l'abbassamento dei limiti e le fotocamere col giallo breve, i comuni ti fottono un sacco di soldi, e questo va benissimo, d'accordo, però l'interrogazione parlamentare, su, dai, amico mio, fai bene a, a voler bloccare i comuni che ti fottono i soldi con gli autovelox, ma non credo che la strada sia l'interrogazione parlamentare. Ciao. Chi se ne frega della zona, siete voi che mi state cercando, e cosa volete da me? Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, ragione, lo dica, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Sì, saluto, battiamo le mani, come no, a voi. Radio 24, la passione si sente.